fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. TG1, TG2, TG Speciale. Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio dal Giappone. E quando sei alla frutta la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare. Il telegiornale che ti sa insegnare. Il telegiornale organizza rivolte bracciantili. Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG Speciale. Niente cinema stasera, c'è il telegiornale. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Sono molto contento di essere qua. Volevi darti alla macchia quest'estate? È vero, un pochino mi darò alla macchia, un pochino non ci sarò perché sarò in giro a presentare il mio libro. Fossi in te io insisterei, però il più possibile cercherò di essere qui e di aiutarti. Poi ovviamente anche perché voglio come sempre imparare, perché mi sento di nuovo stagista, direi, perché è un mese che non facciamo radio insieme e io già ho disimparato tutto e non so come si fa e ho molta paura. Eccoci qua, allora 800 24 00 24, cari ascoltatori, con i vostri interventi tra poco lanceremo un sacco di temi per la serata. Intanto abbiamo il grande onore di avere con noi Carlo Freccero, neo consigliere d'amministrazione della RAI. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Mi fate risentire un po' la musichetta? Un sorriso ministeriale. Beh, non so, avevamo scelto questa, il telegiornale di Venditti, una vecchia canzone. Sarà che tra questi consiglieri di amministrazione, escluso Freccero, molti sono giornalisti o paragiornalisti, comunicatori politici, assistenti di parlamentari, si gira intorno un po' alla politica. Guarda, allora, dico agli ascoltatori, sì. È tutto oggi che parlo, anche perché naturalmente so benissimo che viviamo la città della comunicazione, per cui non potevo esimere a fare interviste. Non voglio parlare male di nessuno. No, assolutamente. Però una cosa sarebbe prematuro, diciamo. Ecco, bravo. La prima battuta, esatto. Ecco, 1-0. È prematuro. Sono Carlo Gabardini, ci conosciamo. Sì, va bene, mi conoscete, questo sono piacere. Per te. Però Freccero, cerco di pareggiare perché ecco. Non vorrei terminare questo confronto sconfitto come ma non mi permetterei per mai, non mi permetterei una mai. Cosa, okay. Una cosa, però possiamo dirla, perché il Movimento 5 Stelle è l'unico che ha adottato una scelta come dire tecnica, cioè ha scelto una persona, no, lei che... Allora, diciamo, raccontiamo una cosa al pubblico. Sì. Cioè io quando Fico mi ha chiamato per invitarmi il curriculum, siccome io conosco un po' Grillo e fa gli scherzi, noi poi liguri siamo molto così depressi, per cui per tenerci su ci pigliamo in giro uno con l'altro, si dice in un altro modo in Liguria che non posso dire perché è molto volgare ma molto però colorito, simpatico. Bene, pensavo uno scherzo, però ho detto vabbè, sì, dai. Bene, e la cosa che mi ha colpito invece è veramente la freddezza, ha imparato proprio, cioè perché ha fatto questo nome in anticipo sugli altri, sì. Sapendo benissimo che doveva giocare nella legge Gasparri, per cui la legge Gasparri è fatta apposta per lottizzare, è, come posso dire, è proprio un sistema geometrico, è un algoritmo di lottizzazione, per usare un termine della moda. Bene, lui cosa ha fatto? Ha messo lì e ha detto nel post, non, io non c'entro, il Freccero non c'entra nulla con noi. E beh, è stato veramente la battuta che quando io stamattina l'ho letta alle 8, perché mi dicono guarda che è uscito la cosa e ho letto quella cosa lì, mi sono sorpreso quando dice nessun filo legato legherà mai Freccero al Movimento 5 Stelle. E la cosa veramente è una no, ma poi al di là del fatto se Freccero sia legato o no al Movimento 5 Stelle, no, però è vero, cioè quel fatto lì, sì. Tanto è vero che poi è successo che Frattoiani ha votato anche che per me, cioè, coordinatore di SEL, il partito di Vendola, sì. Sì, io lo dico con tono molto, poi vi conoscete, lo sapete benissimo, tutta la cosa sulla Grecia, eccetera, per cui io parlo con gente che conosco, che stimo e con cui faccio polemiche, eccetera. È chiaro che io mi sento molto più vicino a come si sensibilità e come convinzioni, con una parte ben precisa che è quella della sinistra, lo sapete benissimo, eccetera, per cui puoi capire, cioè, se non dico, se nascondo qualcosa, poi oltretutto ormai tutto è visibile, tutto trasparente, bene, però è bisogna riconoscere che ha giocato bene, cioè, sì, è stato molto abile, cioè veramente chapeau, io non lo immaginavo così. Detto questo, sì, sono cavoli duri adesso, perché veramente la situazione è molto complessa, perché tu pensa, questa Rai in questo scenario futuro in cui c'è, arriverà Netflix, in cui addirittura in cui il Mediaset si è potenziata con Infinity, per cui addirittura, attenzione, Discovery ha preso una rete, il canale 9, sì, Sky ha comprato il canale 8, cioè capite benissimo che la situazione è molto molto molto complessa, lo dico perché bisogna avere un po'. Ecco, però già sentire parlare Freccero di queste cose, capite che ha inquadrato ovviamente il problema. Netflix, la piattaforma che arriva dall'America, sono queste le sfide che aspettano tra le altre la Rai. Per chi conosce la televisione, sì, infatti è bello sentire parlare Freccero per questo, perché diciamo. Freccero non lo vuole dire, io però lo voglio dire. Cioè, di questi altri consiglieri di amministrazione, l'assistente di un parlamentare del PD, il responsabile della campagna elettorale di Renzi in provincia, vabbè, direttore del Teatro Puccini, Firenze, Guelfi, Siddi, sindacato dei giornalisti, Messa, Paolo Messa, ha curato la campagna, nel suo curriculum, in Sole 24 Ore ha scritto ha curato la campagna elettorale di Fitto nel 2000, meno male una campagna elettorale vincente, giudicate voi, poi ci sono Diagonale e Mazzucca che sono due giornalisti importanti, non so quanto ne sappiano di cose industriali, di management e di cultura, però sono due giornalisti importanti, eletti tutti e due, candidati in politica, cioè a parte Freccero sono più o meno tutti espressione del mondo politico. Questo non lo dice Freccero, ma io lo dico e credo che chiunque possa dirlo. Capo Dall'Orto sarebbe un bel direttore generale? Lo auguro, cioè è un po' che non fa televisione, chiaramente ha fatto MTV, ha fatto molto MTV, l'ha fatta bene, e quando è arrivata la 7 Bernabé l'ha cacciato via, cioè non lo so, cioè te lo ripetere, ha un compito molto difficile, ma veramente difficile, perché la situazione è complessa, perché ormai spiego anche un'altra cosa, perché sì, gli spettatori lo sanno molto bene, quelli di Radio 24 cos'è, è che la TV generalista rischia, la TV generalista di non perdersi, cioè, rischia di essere in un ghetto di consumo molto basso, lo sapete che le molte serate di domenica quest'anno, mentre su Sky e su Media e su Premium ci sono le prede di calcio che fanno 10% d'ascolto, ne vince una telenovela spagnola di nome Segreto. Ecco, questo non è un bel segno, perché vuol dire che l'Italia, il maggior programma visto sulle TV generaliste, non è più fazio, non è più una certa fiction, ma è, come posso dire, una telenovela spagnola. Ecco, però questo glielo voglio chiedere, Freccero. Lei inseguirebbe il gusto del pubblico? Credo già di sapere la risposta. Oppure sarebbe perché a questo tipo di offerta della Rai invece se ne affiancasse un'altra, più coraggiosa, più, non lo so come definire. Io ti spiego una cosa solo. Sigo e guarda, allora, siccome parlo a Radio 24 risponderò subito, ma questa volta bisogna seguire un po' il mercato non ti premia tanto su queste scelte così conservatrici, perché è un pubblico non attivo, oggi purtroppo la pubblicità ti paga solo se ti cerca un pubblico attivo, persino il pubblico del reality, o meglio del talent, perché è così premiato, perché è attivo, sceglie, fa e compagnia bella, quindi è veramente una situazione, ti giuro che è perché Canale 5 ha fatto la scelta di mettere Il Segreto, è molto semplice, perché i maggiori la spesa della serata è tutta quanta sul calcio, per cui deve risparmiare e sceglie naturalmente Il Segreto, quindi vuol dire che per un grande gruppo come Mediaset succede che la TV generalista viene sacrificata. Ecco, la Rai dovrebbe fare altrimenti. Dico bene? Sono chiaro, sono stato chiaro. Chiarissimo, e quindi per esempio dovrebbe produrre invece che comprare una simpatica telenovela spagnola. Ecco, e naturalmente qual è il prodotto che la domenica sempre ha funzionato bene? Era Montalbano, per cui occorre avere altri Montalbano. Vedi com'è la situazione? Cioè, e poi è facile, perché anche la TV come ha una sua aritmetica, matematica, eccetera. Per cui capisci che casini ci sono in questo momento, ma il produrre Montalbano costa caro, eccetera. Quindi vuol dire che si potrà diminuire il canone, oppure invece per mantenere questa forza ancora del generalista occorre mantenere il canone, quindi a spesa. Questi sono, secondo Freccero, sono discorsi, diciamo, più da economisti, oppure si sente da un giudizio televisivi, perché purtroppo fare televisione occorre sapere un po' di tutto. Tu sai che dico sempre che è la cosa terribile, che chi fa televisione è un fallito, perché sa un po' di tutto ma non eccelle in niente. Fermiamoci un attimo perché abbiamo una bellissima pausa per il traffico, tiriamo il fiato, poi torniamo. Non gli prendiamo troppo tempo a Freccero, perché oggi ha fatto 100.000 interviste, però la domanda per esempio sul canone sì, la facciamo dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi con Carlo Gabardini, eccolo qua, insieme a Carlo Freccero, nominato consigliere eletto d'amministrazione della Rai, insieme, diciamo, i nomi Rita Borioni, Guelfo Guelfi, Franco Silli, Paolo Messa, Arturo Diaconale, Giancarlo Mazzucca. Sul canone stava dicendo Freccero, questa non è una cosa da economisti, ma si parla proprio di televisione. È una cosa complessissima, perché è chiaro che è una cosa che per il pubblico è abituato a pagare il canone per le TV a pagamento, cioè pagare appunto l'abbonamento, eccetera. Questa cosa è diventata insopportabile. Dall'altra parte, la RAI, per sopravvivere in questa concorrenza, deve essere aiutata attraverso quella che si chiama una tassa, il canone, e qui è un problema. Bisogna quindi dare la giustificazione di quello che si fa, per cui se non dai dei programmi che siano in qualche modo giustificati, è chiaro che l'odio verso la RAI aumenterà, e questo qua è un problema, un altro problema grossissimo che si dovrebbe affrontare. Poi è giusto, ad esempio, la RAI dovrebbe in qualche modo avere per certi avvenimenti culturali una video on demand, cioè per fare la Scala, oppure invece se c'è il canone invece non è possibile. Cioè sono tutti problemi che si pongono sul tappeto, che occorre dare risposte, perché è chiaro che ormai c'è un pubblico che vuole anche non solo mica vero che tutto quanto le altre televisioni possono soddisfare le domande del pubblico, ci sono domande che non vengono soddisfatte perché costano troppo, perché in qualche modo non sono convenienti sul piano commerciale. Il canone non lo toglierebbe, diciamo, no, in questo momento sarebbe un disastro, vorrebbe dire, o non lo abbasserebbe, allora, perché Renzi voleva abbassarlo molto, forse. Allora, lei scusa, ha dato prima del tu, mi correggo, chiedo scusa, ma siccome se noi nei media siamo abituati a darci del tu e quindi chiedo scusa agli spettatori, agli ascoltatori, però ecco, no, vuol dire abbassare il canone, vuol dire allora privatizzare una rete, togliere le reti, scusate. Vedete? Quindi no. Quindi no, o meglio, sono problemi di carattere editoriale, politici, culturali, cioè, ma allora se io tolgo una rete alla RAI per diminuire il canone, per far sì che sia sopportabile ormai dal comune, sentire dalla gente, ma prima devo risolvere il conflitto di interesse, posso mica lasciare un gruppo che ha tre reti, tutte le TV digitali possibili, più la TV premium e più anche la video on demand. Lo capite come tutto cascata le cose sono? È complesso. E invece l'ipotesi di... Sono chiaro? Sì. No, chiaro, se non si può abbassare il canone se prima si risolve il conflitto di interessi, perché dall'altra parte c'è un'altra azienda che ha accumulato negli anni tutta una serie di posizioni. Sulla riduzione ad un telegiornale unico, no? Che è un altro progetto ventilato di cui si è parlato, un direttore generale nominato da Renzi potrebbe avere in testa questo progetto, che poi non so da quanti passaggi, compreso il consiglio di amministrazione, dovrebbe avallare. Freccero sarebbe d'accordo, cioè, o sarebbe una riduzione, diciamo, del pluralismo dell'informazione? No, vedere che cioè un telegiornale non vuol dire nulla, cioè ad esempio mi sembra che ad esempio ci siano già il TG2, se uno lo vede attentamente, è diverso dal TG1, cioè nel senso che non è più un telegiornale diviso in due parti, è più una parte approfondimento, cioè ogni il telegiornale di TG1 è un telegiornale generalista, l'altro invece è quello di TG3 è un più particolare, più legato, cioè sono diverse tipologie anche di telegiornali, un po' di conoscenze anche semiologiche andrebbero bene. Cosa vuol dire un unico telegiornale? Mi sembra una battuta. Per risparmiare, per risparmiare, per accorpare, per diminuire il numero di corrispondenti, come fa per esempio la BBC, che ha un telegiornale. Altre reti pubbliche in Europa hanno un'unica, diciamo, testata. No, io ho fatto la TV francese, come sapete, ho fatto anche, mi sono occupato anche di TV svizzera, la TV francese ad esempio, che conosco molto bene, ogni rete al suo telegiornale con delle caratteristiche. È chiaro che la 2 è un telegiornale generalista, quello della 3 invece più legato al territorio, alle realtà locali, e poi naturalmente i telegiornali della giornata sono differenti, uno è più approfondito, cioè esempio quello di France 2 è molto, c'ha molto anche politica estera, perché la Francia ha un tema fondamentale, il mondo, mentre quello della 3 non lo ha, vedi, quindi sono delle cose, e lì si risparmia perché la 3 non ha inviati come può avere la 2, per cui vedi, sono cose, cioè sono temi anche che pongono dei problemi di carattere editoriali particolari, cioè non è che si può risolvere come fare una cosa, un telegiornale unico per risparmiare. Qua è un modo di comportarsi da uno che vende bottoni. Sì, cioè, è un po', mi viene a fare un paio, è un po' come l'abolizione del corpo forestale, di cui pure parleremo tra po', che non viene abolito, ma viene accorpato a sua volta, e quindi non so, tutta una serie di gioco delle tre carte. Comunque è vero che sono problemi che occorre affrontare, perché cioè, d'altra parte il canone, quello che è adesso, è insopportabile per la gente, dovuto al fatto alla comparsa dell'abbonamento per la TV a pagamento. Vede, poi tre cose, cioè che ogni novità, diciamo così, tecnologica, crea degli effetti che vanno oltre al linguaggio, eccetera, ma ha un riverbero che anche su altri fattori, ad esempio quello del carone è dovuto al fatto, soprattutto al fatto che ormai c'è Premium, Sky, eccetera, eccetera. Quindi pensate un attimo una cosa per spiegare questa cosa al pubblico. Pensate che con Netflix da nuovo costerà l'abbonamento praticamente un quinto di quello che costerà Sky. Capite benissimo che Sky, cioè, c'è tutto così, cioè è una cosa, il mondo dei media è complicatissimo, cioè è una cosa. E allora, che senso oggi ha, in tutta questa complessità che oggi è, un servizio pubblico? Che missione ha? Queste qua sono le domande che si deve rispondere. Lei pensa di poter entrare in un consiglio di amministrazione decisionale, oppure teme che, ne so, che decidano tutto alla fine i direttori di rete, per esempio, o altre figure magari intermedie che hanno in mano il potere di gestire delle cordate, di produzioni? Allora, piuttosto che... ha detto una cosa che se la sentisse Renzi la punisce subito, le toglie il microfono, ha detto corpi intermedi, sai che lui non può. Ma noi non siamo dipendenti di Renzi, però. Così almeno un po' di pubblicità, un po' di battute si bisogna fare, ecco. Giusto? Ecco, no, per l'amor di Dio, l'intermediazione, il peccato, la rovina di tutto. Poi succede appunto che grazie all'intermediazione, che non c'è più intermediazione, c'è qualcuno che invece di pigliare 5 euro a loro ne piglia uno. Qua è chiusa la parentesi, ma lasciamo pure perdere tutte queste fesserie. No, dicevo, no, è un problema grosso, cioè non lo so che funzione avrà questo consiglio di amministrazione, si capirà da subito se è una funzione di passacarte oppure può dire qualcosa. Lei vuol dire qualcosa, professore? Mi informerò, vorrebbe, di questa, ecco, cosa, su questo potrei contare che io sarò molto molto aperto all'informazione. Ecco, no, perché questo anche mi sembra molto importante, perché era la cosa che anch'io volevo chiedere, se in realtà è una domanda un po' ingenua, mi sembrava la mia, se in realtà cambierà qualcosa, perché abbiamo visto spessissimo cambiare il CDA della Rai, però poi diciamo dal punto di vista degli spettatori sembrava non cambiare molto, quindi mi chiedevo se questo era la volta buona, ecco, se secondo lei questa è la volta buona, che cambia qualcosa realmente nella Rai. Cioè, non penso che sia per merito o demerito del Consiglio, penso che sia, si deve assolutamente per un motivo molto semplice, perché la situazione è, oggi si decide se far sopravvivere il Consiglio di amministrazione, far sopravvivere la RAI oppure no. Oggi il tema è, si rischia in qualche modo di fare in qualche modo sparire un servizio pubblico. D'altra parte voi sapete molto bene, perché siete Radio 24, che uno dei temi più importanti è quello che si chiama appunto il welfare, eccetera. Ad esempio, no, l'università privata e l'università pubblica, oggi come oggi sembra che l'università privata fra qualche anno privata sarà dominante rispetto a quella pubblica, ad esempio. È uno dei temi più importanti che ci sono, molto più che la RAI. È molto bello anche che ricorda il fatto che qua si tratta di capire se far sopravvivere la RAI, cioè se la RAI sopravviverà o meno. Perché io ricordo una sua bellissima intervista dove dopo la questione dell'editto bulgaro, lei disse che la notte dopo l'intervista di Luttazzi a Travaglio, molti la chiamarono dicendo la sua carriera è finita, e lei diede la risposta che per me è un mantra veramente che mi sono tatuato. Lei disse: la TV va fatta come se fosse sempre l'ultimo giorno. Sempre. A parte che la ringrazio moltissimo per questa frase, però io la cosa che mi chiedo è: anche il membro del CDA va fatto, cioè se riuscirà a farlo, visto che oggi è il suo primo giorno in realtà del CDA. Ma puoi capire, si vive una volta solo, per di più dopo la certa, anzi la maturità ti dà questa idea veramente di non almeno lì essere onesti, cioè l'ultima. Quindi vivere pericolosamente questo CDA. Ma non però... vivere pericolosamente, si vive, cioè quando si vive sempre pericolosamente, si vive sempre. Il povero giornalista che deve sopravvivere adesso, che in qualche modo poi fa un servizio a pochissime lire, per cui è ricattato in questo modo. Ma chi è questo chi giornalista? Ha questa posizione debba almeno avere questo onore di essere un po' più libero, insomma, degli altri, ecco. Giusto. Tanto per avere un'idea, un programma, ce lo può da dire, un programma che terrebbe, che rilancerebbe, uno che invece cancellerebbe, così distinto. No, su questo non tocca a me, scusate tanto. Naturalmente, buon lavoro. Ok. Ciao. Io ci ho provato. 800 24 00 24, appena nominato così è chiaro che non poteva entrare a gamba tesa sul nome dei programmi. Però sì, ma anche perché il CDA non fa i programmi, in realtà, è dello stesso Freccero che di solito ce lo ricorda. Però appunto era giusto provarci. Vabbè, questo è il punto di vista di Freccero. Tra poco ripartiamo con altre cose, ci risentiamo tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Chi sei? Dietro la porta so che ci sei. Ti riconosco dai passi tuoi. Non dire il nome, non dire che vuoi. So già chi sei. Cioè, così in maniera un po' irriverente ci è venuta in mente questa chi sei di Renato Zero, a proposito dei consiglieri di amministrazione, perché l'abbiamo già detto, a parte Carlo Freccero, a parte la notorietà di Carlo Freccero e l'esperienza, ma soprattutto l'esperienza di Carlo Freccero, che ha anni e anni di esperienza televisiva alle spalle, abbiamo insomma gli altri nominati, vedete voi. Abbiamo Rita Borioni, che è assistente parlamentare del presidente della commissione cultura del Senato, il senatore del PD Marcucci, cioè assistente di un senatore. Abbiamo Guelfo Guelfi, che sì è direttore del Teatro Puccini di Firenze, ma è noto soprattutto per essere stato responsabile della campagna elettorale di Matteo Renzi per l'elezione alla provincia prima e a sindaco a Palazzo Vecchio a Firenze poi. Abbiamo Paolo Messa, editore, formiche.net, un piccolo sito di informazione, e anche lui sul curriculum del Sole 24 Ore si riporta, dal 2000 al 2006 si è occupato di comunicazione politica, ha curato la campagna elettorale, per fortuna dico io, vittoriosa, di Raffaele Fitto alle regionali del 2000. Perché dici per fortuna? No, almeno ha vinto qualcosa. Ah, tu dici se ha vinto sarà bravo questo Paolo Messa. Okay. Arturo Diagonale, giornalista, anche lui candidato a suo tempo, ma credo non eletto, con il centrodestra. E invece Giancarlo Mazzucca, direttore, anche lui come Diagonale, giornalista di vecchio corso, direttore, ex direttore del Giorno, Il Resto del Carlino, eccetera, eccetera, anche lui eletto nel centrodestra. Questo è la, diciamo, la qualità del CDA della RAI. Sulla RAI, le voci, Gasparri. L'unico e questa è una grande soddisfazione. Assistete alla quarta applicazione della legge Gasparri, non era così male. Cioè non era così male se l'hanno già usata quattro volte quattro volte hanno già usata la legge Gasparri. Vabbè, non ce n'era un'altra, infatti l'abbiamo visto gongolare tantissimo ultimamente negli ultimi due giorni, siccome si riusava la sua legge, però non è che si riusa la sua dicendo che bella che è la tua legge, nel senso che c'è seriamente quella in questo momento. Liuzzi, Movimento 5 Stelle. Abbiamo deciso di fare un nome serio, competente, che è quello di Carlo Freccero, e che non risponde assolutamente né al Movimento 5 Stelle né a nessun altro partito politico. Quindi crediamo che la competenza venga prima di tutto. E poi Orfini del Partito Democratico, che sì, se la prende col fatto che la minoranza del PD ha votato così provocatoriamente De Bortoli, però dovrebbe spiegare, vabbè, lasciamo perdere, vai. I nomi che sono stati scelti hanno caratteristiche e qualità per rilanciare l'azienda. Il nome di De Bortoli è un nome importante, naturalmente, certo è un po' curioso che sia il nome della cosiddetta sinistra interna del Partito Democratico. Non dire il nome. Vabbè, i nomi, dice Orfini, sono in grado di rilanciare frasi di circostanza. La RAI, l'assistente di un parlamentare, l'assistente di un parlamentare, io non lo so. Vabbè, poi non si può parlare male, no, delle persone. Degli assistenti, beh, gli assistenti sì, no, sì. Finché non entrano in consiglio di amministrazione penso di allora sì. Diciamo qualcosa, no, io allora lo so, diciamo però qualcosa. Penso di sì. 800 024 0024. Giustamente dalla regia mi fanno segno, l'assistente mi fa segno come per dire adesso vuoi parlare male degli assistenti. Hai ragione, è vero, non devo parlare male degli Spieghiamo assistenti. Però allora di cosa stiamo parlando? Beh, dell'assistente in regia stiamo parlando, allora, direi sì. Che è abbastanza evidente. Cocorico, Giorgia Meloni. E oggi la cosa surreale di questa vicenda del Cocorico è che il questore dispone la chiusura del Cocorico, ma lo spacciatore che ha venduto la pasticca a questo ragazzo, a Lamberto, che ha confessato di avergli venduto la pasticca, è denunciato a piede libero, sì. Per cui nessuno gli farà assolutamente niente. Visto che si dice sì. Che nelle grandi discoteche giri la droga, il questore che oggi chiude il Cocorico, perché non ci ha messo i cani antidroga all'ingresso della discoteca, così magari la gente voleva andare a ballare, andava a ballare lo stesso senza necessariamente sì. Doversi drogare, perché è pieno di gente che va a ballare senza calarsi le pasticche o tirarsi la cocaina. Non mi sembra che lo Stato abbia fatto niente lì. Perfettamente d'accordo per quanto mi riguarda con Giorgia Meloni. Abbiamo detto ieri sera anche con DJ Coccoluto, prima di arrivare a chiudere la discoteca forse si potevano fare un po' di controlli dentro e fuori la discoteca. Però non è che siamo a favore dei cani antidroga nelle discoteche, direi. Io sì. Ah, no, tu sì, io no, io no. Sì, io davanti, cioè, sì. Già è difficile le discoteche con gli esseri umani, se poi ci sono anche i cani. Allora, meglio chiusa. No, no, non è meglio chiusa, però i cani antidroga mi sembra esagerato. Davanti alla discoteca dei controlli si possono fare. Ma se muore uno in una chiesa, per esempio, perché si è fatto una canna, bisogna mettere i cani antidroga anche davanti alle chiese. Lo sai benissimo, non è una chiesa. Se tu sai e sei convinto, come dice il questore di Rimini, che dentro la discoteca Cocorico ci sia un problema di spaccio grosso, molto grosso, allora fai qualcosa, non aspetti che ci sia un morto e poi chiudi. No, ma questo assolutamente, questo è quello che dico io. Ma questo lo fai subito, nel senso, e puoi anche chiudere la discoteca e fai un controllo, ci mancherebbe dell'altro. Esatto. Se sai che c'è del grosso spaccio, non è che aspetti la serata e durante la serata vai coi cani. Però questa sera, siccome già ieri sera sono arrivate un sacco di telefonate, soprattutto di quarantenni che insomma, raccontavano dei loro anni 90 in discoteca, sono anche belle storie, sono anche divertenti. Insomma, la discoteca, bene o male, è un luogo dove ognuno di noi ha passato momenti divertenti, belli, senza magari sballandosi mal giusto o non sballandosi per niente, ma divertendosi molto. E allora stasera vogliamo anche un po' riabilitarlo, no, questo luogo. Raccontateci il vostro quella sera che in discoteca è successa una cosa bellissima, insomma, vi siete fidanzati, storia da discoteca, vi siete innamorati, e non solo quarantenni, due volte, tre volte. Anche se siete sedicenni, cioè, insomma, nel senso che anche oggi c'è chi va in discoteca senza sballarsi, e in più sottolineiamo che comunque anche l'alcol è sballo, quindi 800 24 00 24, aspettiamo i vostri racconti. L'ultima notizia, la moschea a Milano, sapete che è stato sono state aperte le buste per il bando per 3 nuovi luoghi di culto nella città. L'assessore Maiorino spiega. Mi auguro che il mondo musulmano però collabori di più. È chiaro che il fatto che ci siano 17 sigle, in alcuni casi in grande conflittualità tra loro, crea dei problemi a noi e crea dei problemi a loro. Allora, andiamo con gli ascoltatori e cominciamo con Michelangelo che ci chiama proprio da Milano. Buonasera Michelangelo. Ecco, buonasera, complimenti intanto per la trasmissione. Grazie. Buonasera, grazie. Di cuore, veramente, complimenti. No, io due cose. Uno, ascoltando Freccero, veramente, come dice qualcuno, è un piacere sentirlo. Mi viene veramente un po' la pelle d'oca quando sento gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, quindi mi autocandido come indipendente al CDA. Già che ce ne mancano ancora due, perché è vero, manca il Presidente e quello espresso dal Tesoro, dal Ministero del Tesoro. Va bene, perfetto. Michelangelo. Non avrò il supporto. Mandi il curriculum in fretta, però a Padoan. Assolutamente, lo farò. No, quello che volevo dire è che è vero che Rai 3 è, come dire, non è quella la televisione francese, ma è un semplice motivo, perché c'è un gioco politico che è da anni, da quando è nata la Rai, che fa sì che la Rai è il consenso politico che ogni partito vuole e pretende dai media. Quindi su questo noi dobbiamo fare una riflessione molto attenta, perché il popolo italiano, credo, spero, sia un po' evoluto, e quindi grazie al fatto che ci sono molte televisioni, ora non possiamo più dire che la Rai, come dire, è una sola voce, finalmente è una voce tra le tante. Quindi questo, io spero proprio che il Consiglio di Amministrazione, ma ho forti dubbi, perché voglio vederlo all'opera, abbia quel buon senso di portare un'informazione, come si dice, apolitica. Questo sarà impossibile, però la speranza di un 46enne è questa. Chi visse sperando, Michelangelo? No, vabbè, esatto. Grazie. No, grazie. Mi sembra difficile che questo giro il CDA riesca a rendere apolitico qualunque telegiornale, ma comunque, insomma. No, ma non succederà né adesso né mai con questo tipo di leggi che regolano la RAI. Non può succedere, perché a cascata dal Presidente, i consigli di amministrazione, i direttori sono tutti espressione dei partiti, e quindi la no, politica non è fuori dalla RAI. È il discorso che facevi prima tu, Alessio, giustamente, che tu chiedevi a Freccero un unico TG, e lui giustamente diceva ci possono essere tanti TG diversi, però come diceva l'ascoltatore, un conto è avere dei TG, diciamo, con ottiche diverse, un conto è avere la lottizzazione, ovvero tu ti prendi quel TG lì, io mi prendo quel TG là e tu ti pigli quell'altro TG, nel senso che se sono TG che hanno un'impronta politica è diverso, non è fare dei TG così con è stato, un'ottica diversa. Così è stato, esatto, fino ad esatto, infatti era giusta la tua Fabrizio, domanda. Fabrizio da Firenze, buonasera. Fabrizio. No, la sentiamo malissimo, Fabrizio. In quanti siete? Resti lì, lo riprendiamo perché non si sente un tubo. Giacomo da Brescia. Niente, neanche Giacomo. Allora, sono nella stessa casa, direi, a sentire dall'audio. Pronto Giacomo. Sono Giacomo. Allora, prego. Io volevo intervenire. Sì. Buonasera. Buonasera, mi scusi. Niente. In merito all'affermazione di quel professore di ieri sera, quello di diritto commerciale, che si lamentava perché le aziende italiane venivano vendute. Non so se si ricorda. Io ero assente, giustificato. Ero sobrio, ma non mi ricordo del tutto. Vada avanti, vediamo. Ieri sera io volevo dire una cosa. Sì. Io ce ne scampi liberi di quei professori. Da perché cosa? È un professore di diritto commerciale, sì, che non sa che le aziende vengono acquistate e vendute perché c'è qualcuno che investe, e se non lo sa un professore di diritto commerciale, chissà quello del bar. Giacomo, io la ringrazio per questa telefonata, della quale non ho capito assolutamente nulla, ma riferendosi alla puntata di ieri, diciamo, parliamone domani. Marco D'Ancona, così, buonasera. Buonasera. Prego, Marco. Io volevo intervenire riguardo le parole del dottor Freccero, no? Che ha detto, sì, che il canone sarà sempre più odiato, la Rai sarà sempre più odiata. Sì. Infatti in questo modo sarà sempre veramente più odiato, perché mi è obbligato a pagare un servizio che magari io non guardo mai. Allora, se anche per risolvere il problema dell'evasione del canone, dove non lo pagano, sì, allora io a gennaio pago il canone, mi danno la smart card, inserisco il televisore e guardo. Io non pago, non guardo. Cioè, è tanto semplice adesso. Allora, uno che vuole guardare, mia mamma gli piace i programmi della Rai, va a pagare il canone. Un po' come Sky, dove sì, però, sì, come Mediaset. No, però mi scusi, non li prende veramente mi scusi, quando vede che dopo Fazio viene pagato milioni di euro, con i soldi anche miei, e io non guardo mai uno e viene veramente l'odio. Sì, però la differenza sostanziale è che da un lato è una TV commerciale, quindi io non ti faccio pagare, oppure ti faccio pagare solamente quello che guardi, e l'altra è la TV pubblica, che in teoria dovrebbe essere un servizio, quindi anche se tu non lo guardi è buono che ci siano dei giornalisti pagati dallo Stato in modo che facciano delle inchieste, faccio un esempio qualunque, questo è il senso. Poi dopo ovviamente lei può essere contrario, però dicevo, la differenza fra i due servizi è questo: uno è un servizio commerciale e l'altro un servizio pubblico. Teorica è così, ma ascolti, io sono interessato al calcio. Allora, la RAI paga più di milioni per prendere i diritti della Coppa Italia. Ho visto la finale della Coppa Italia, un'indecenza. La telecronaca è indecente, giornalisti indecenti. C'ha un canale dedicato allo sport, Rai Sport. Puoi fare un pre-partita, un post-partita? No, niente. Questo è un altro argomento, ma... e c'ha molta ragione. Effettivamente, lei dice: io pago anche il canone, però porca miseria, è possibile che tutto quello che invece vedo in Rai è molto inferiore a quello che vedo sugli altri canali? E questo mi dà fastidio. Questo è chiaro. Grazie, Marco. Grazie mille. Grazie, traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di dentro. Una notizia che riguarda Milano, ma che insomma può interessare tutti. Ci sarà una moschea a Molino Dorino, una parte di questa città, un'altra in via Padova, una nuova chiesa evangelica a Rogoredo. È il risultato del bando del comune per tre nuovi luoghi di culto in città. C'è chi festeggia, i musulmani che potranno avere luoghi ufficiali di preghiera, anche gli evangelici tra l'altro, sì, a sorpresa, no, anzi no, forse sì, adesso lo vedremo. E c'è invece chi protesta, una parte della città, la Lega sicuramente è contro queste moschee, l'opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Libero ha scritto oggi: Pisapia, l'ultimo regalo alla città, regalo tra virgolette. Noi ne parliamo con Davide Piccardo, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Davide Piccardo, che è coordinatore delle associazioni islamiche milanesi. Immagino che sarete soddisfatti per questo risultato che era atteso da tempo. A Milano non ci sono al momento moschee, diciamo, ufficiali, ci sono luoghi di preghiera che però si vogliono superare per dargli maggiore stabilità, eccetera, eccetera. Soddisfatti? Si tratta di una giornata storica per noi, perché in 40 anni di nuova presenza islamica in Italia è la prima volta che avviene a seguito comunque di una nostra lotta, di una campagna. Ci siamo battuti per il diritto di culto a Milano e siamo riusciti a ottenere che finalmente si facesse un bando per assegnazione di aree pubbliche, ovviamente che noi paghiamo, però per garantire degnamente e dignitosamente il diritto di culto di 100.000 cittadini musulmani a Milano. Non stiamo Quanti? Parlando. 100.000? 100.000 residenti nel comune di Milano, su una popolazione di 1.250.000, è un numero molto importante. Bisogna sottolineare che oggi non è che non esistano i musulmani e soprattutto non è che non preghino, quindi oggi i musulmani già pregano, pregano in strutture informali, nelle sedi delle proprie associazioni, lo fanno, quindi chi contesta la nascita di moschee si vuole attaccare a quella che è l'informalità attuale. Ecco, ma perché secondo lei, Piccardo, c'è una parte della città, della rappresentanza politica che è contraria alla nascita della moschea a Milano? Ci sono due motivi che però sono fortemente intrecciati. Uno è la paura che nasce dalla mancanza di conoscenza. Comunque il mondo islamico e storicamente il cosiddetto mondo occidentale, che poi sono concetti che a volte si sovrappongono, hanno vissuto diciamo relazioni diverse nella storia, con alterne fortune. In questo momento è stato deciso, per ragioni secondo me di politica internazionale, che il campo islamico dovesse essere un avversario, però dobbiamo ricordare che la presenza islamica in Italia è di quasi 2 milioni, in Europa stiamo parlando di 30 milioni di cittadini, quindi non c'è io sono un occidentale e sono un musulmano, sono un italiano e sono musulmano. C'è una diffidenza spesso alimentata da una campagna mediatica che enfatizza alcuni episodi o episodi che non hanno niente a che fare. Una campagna mediatica però portata avanti anche per esempio dall'ISIS, no? In Siria, in alcune zone della Turchia, dell'Iraq, della Libia, con video di propaganda che diciamo inneggiano. Certo, sembra che l'ISIS sia veramente, come dire, il prodotto perfetto per alimentare questo odio, questa diffidenza. Si presta perfettamente, infatti bisognerebbe farsi due domande su quelle che sono i loro scopi, perché i loro scopi sono quelli di tracciare un solco sempre più netto, sempre più profondo tra i musulmani e gli altri, e questo è qualcosa che danneggia in primis noi. L'ISIS si rivolge prima di tutto ai musulmani, colpendo prima di tutto i musulmani, che sono le vittime principali di queste atrocità, e poi ovviamente alimenta un odio nei confronti dell'Islam che purtroppo subiamo anche noi sulla nostra pelle. Senta, ma quindi tornando a Milano e alle moschee, due nuove moschee, ci sono già i progetti, quindi chiuderanno tutte le altre luoghi di preghiera, diciamo, informali e non autorizzati, cose di questo genere? Beh, questo è, diciamo che il problema, noi abbiamo sempre rilevato che questo bando fosse assolutamente insufficiente per garantire il diritto di culto, ma sia dei musulmani che delle altre confessioni, vedi gli evangelici che hanno numerose luoghi di preghiera, cioè pensiamo che sia un primo passo. Troppo avanti. Poco, quindi non si riuscirà a chiudere tutti i luoghi non autorizzati di preghiera, ma è una questione matematica. Per esempio Viale Jenner, che era uno di quelli che aveva creato problemi, perché poi le persone finivano a pregare in mezzo al marciapiede per la strada e c'erano state varie tensioni in passato. Quello che fine farà, per esempio? Ma la situazione di Viale Jenner diciamo che era stata risolta appunto da Decorato, che oggi si fa alfiere di questa campagna antimoschee, assegnando appunto proprio l'area del Palasciarpa alla preghiera del venerdì. Quindi qui si vede tutto il pregiudizio ideologico e strumentale. Lui, che da 8 anni ha garantito ai musulmani che potessero pregare in un'area, adesso non vuole che lì nella stessa area sorga una moschea, però andava bene il tendone. Quindi diciamo la situazione di Viale Jenner è stata risolta facendo pregare le persone al Palasciarp, che è una delle aree segnate, non verrà mai interrotto il servizio di preghiera, e quindi il problema non si può. Perché sarebbe stato assegnato, diciamolo, a un'altra comunità, quindi diciamo c'è un, come dire, un rischio di un cortocircuito tra comunità islamiche. Però insomma, questo, noi come comunità islamica siamo un'unica comunità, poi ci sono a diverse associazioni, ma chi va a pregare nei luoghi che trova secondo della prossimità. Non ci sarà un problema, perché l'utenza che oggi frequenta quel posto. Vabbè, questo però è un problema. No, diciamo, però, sì. Mi scusi, lei dice che siete un'unica comunità, perché volevo capire, prima giustamente Alessio diceva c'è chi è a favore, c'è chi è contrario, c'è chi oggi esulta per questa notizia e chi no, ma sbaglio, anche al vostro interno in realtà ci sono parti di musulmani che in realtà volevano assegnata la moschea, che adesso non ce l'hanno assegnata e che quindi non sono mica tanto contenti? Sì, certo, ma c'è stata una competizione anche per le chiese evangeliche, hanno presentato anche loro diversi progetti, c'è una pluralità di soggetti, però come musulmani, io dico, è un discorso più dottrinale, nel senso che come musulmani siamo un'unica comunità, siamo tutti fratelli e preghiamo indifferentemente nei luoghi che troviamo. Quando un musulmano entra in una moschea in un paese, diciamo, islamico o in una sala di preghiera, qua non si pone la domanda su chi la gestisce, ma va a pregare. Vabbè, perché deve andare a pregare. Ovvio, questo è normale, però no, mi chiedevo che cosa succederà, perché mi sembra che qualcuno di altre comunità islamiche invece ha detto vedremo se veramente avrete voi la moschea o se ce l'avremo noi. Non c'è un po' di... C'è un bando, siamo uno stato di diritto, c'è stato un bando pubblico, il bando pubblico dà i suoi risultati. Credo che se uno partecipa a un bando mette anche in conto il fatto di poter perdere, altrimenti non partecipiamo neanche ai bandi, chiediamo che ci sia un'assegnazione diretta. È normale che ci siano polemiche oggi, ci siano malumori per chi non... Senta, ma dentro poi queste moschee, no? Chi sarà che fa le prediche? Ci sarà un albo degli imam? Le prediche saranno fatte in italiano, per esempio, o anche insomma, in lingua araba, la lingua del Corano? Allora, la preghiera rituale si svolge sempre in arabo, invece il sermone può essere fatto, come si fa normalmente in tutti i paesi, nelle lingue del posto. In Italia c'è una condizione su questo ancora, secondo me, un po' arretrata, la maggior parte dei nostri centri, devo dire la verità, perché si usa molto spesso l'arabo anche quando buona parte della comunità non lo capisce. Perché quindi cercherete di utilizzare di più l'italiano o solo l'italiano? O il latino? Potrebbe essere idea, ho il dialetto milanese. Una follia, il latino. Però noi useremo l'italiano, però vorremmo, e abbiamo messo nel progetto, il fatto che abbiamo una cabina e le cuffiette per le traduzioni simultanee in diverse lingue, almeno un altro paio di lingue, per dare la possibilità alle comunità che ancora non riescono a capire certi contenuti in italiano di recepire il messaggio del sermone. Per quello l'importante è che cioè non c'è un problema di sicurezza, perché i luoghi di culto islamici sono tra i più controllati di tutti, quindi cioè, poi non si fa fatica a trovare interpreti di arabo, non è questo il problema è di accessibilità ai contenuti. Non interessa che la nostra comunità capisca quello che viene detto il venerdì, se no va a casa senza aver capito niente. Questo non ci va bene. La lingua molti italiano... si chiedono anche, al di là della lingua, chi sono i finanziatori, diciamo, di questa moschea, che ha un costo, perché c'è un progetto anche abbastanza imponente. Quanti milioni di euro? Ma siamo intorno ai 10 milioni. Diciamo che sono già state fatte moschee con costi relativamente elevati, vabbè, quella di Roma. Ma chi ne mette però i soldi, quindi, in questo caso? I soldi, noi abbiamo presentato un business plan e una relazione sui finanziatori al comune. Ma noi chi? Noi l'associazione, cioè, che ha presentato istanza, no? Sì. Abbiamo detto, guarda, queste sono le nostre ipotesi, abbiamo elencato una serie di soggetti, di enti pubblici e privati, sia all'estero, diciamo extraeuropei, che in Europa, in paesi, alcune fondazioni per esempio, che con cui abbiamo avuto contatti in da Qatar, quale paese? Qatar, poi? In Kuwait, in Turchia, in Germania, però contiamo di raccogliere almeno il 60% in Italia. Va bene, grazie. Dobbiamo chiudere. Buona serata, grazie, Riccardo. Grazie mille. Giornale Radio, ci ritroviamo subito dopo. A dopo. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Il Falco e il Gabbiano si sdoppia dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23. Le storie più emozionanti, quelle che avete scelto voi. Un mese da passare assieme, un colpo d'ala lungo quanto un'estate. Storie di vite straordinarie. Il Falco e il Gabbiano, dalle 15 alle 16, dalle 22 alle 23. Naturalmente su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Sono impazziti di nuovo. Di nuovo buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Guabardini. 800 24 00 24, rilanciamo il gioco di questa sera, il tema discoteche. Già ieri sera sono venute fuori delle belle telefonate, quarantenni che raccontavano dei loro vent'anni in discoteca, vent'anni fa, negli anni 90, al periodo d'oro, forse, no? Confermi? Sì. Beh, tu ci andavi? Sì, ma io ci vado tuttora, però posso dirlo? Sì, posso dirlo. Certo. Ne parlo anche diffusamente nel mio libro, ovviamente di discoteche gay, quindi figurati. Ah, vabbè, qua apriamo un altro capitolo. Io ne vado a raccontare apriamo tantissime. Un altro capitolo. Allora, questa sera, dato che al di là di come la... Ce l'abbiamo una voce, sì, sentiamo Sant'Anchè intanto. Dobbiamo chiudere una discoteca, uccidere un'impresa, perché comunque ci sono 200 posti di lavoro, e che cosa serve? Vogliamo chiudere tutte le discoteche d'Italia perché sono luogo dove i ragazzi si drogano, cosa per me falsa. Sono d'accordo, chiudiamole tutte, ma non si può avere in uno Stato che io vorrei che fosse liberale, uno Stato liberale, perché succeda una tragedia. Ma questo è il modo più sbagliato. Oh, siccome insomma, al di là di come la pensiate, ieri sera abbiamo fatto una bella intervista con DJ Coccoluto, che sosteneva anche lui che è sbagliato chiudere le discoteche. al di là di come la pensiamo su questa vicenda, la discoteca è un luogo nel quale tutti abbiamo vissuto momenti belli, esaltanti, divertenti. Allora rinobilitiamo questo luogo. Ricordiamo che le discoteche sono luoghi dove accadono tante altre cose, dove sostanzialmente si va per ballare, stare insieme. E quindi chiamateci. Anche trovare l'anima gemella, che non è una cosa brutta. 800 24 00 24, quella sera che in discoteca mi sono fidanzato, mi sono innamorato 1, 2, 3 volte. Capita nelle come? Nelle serate proprio eccezionali. E non mi guardare. E come sempre, anche questa sera mettiamo in palio la mini guida con gli itinerari su Milano, mini guida di Expo, edita dal gruppo 24 ore. Quindi un bel premio al racconto più originale, più interessante, più divertente. Di una discoteca. Uno, giustamente, forse bisognava regalare 2 biglietti per il Cocorico, però è chiuso. È chiuso. Sai che a Forte dei Marmi è tornata la rete anti-bivacchi? Sotto il pontile di Forza dei Marmi, lo sai? Lo so, ho letto. Ho letto. La sapevi? La sapevo. Allora, il sindaco di Forte dei Marmi, Barà Buratti, ha fatto un'ordinanza valida fino al 31 ottobre, insomma, contro il commercio ambulante, contro il degrado, e ha messo questa rete sotto il pontile per evitare che ci andasse a stazionare la gente. Però, contro il riposo, direi. Contro l'ombra, l'ombra per i migranti, diciamo, contro quelli che vendono sulle spiagge, che andavano lì a sostare, a prendere un po' d'ombra. Sentiamo, va bene tutto, ma l'ombra non è un reato. Sentiamo un po' di voci da Forte dei Marmi. Abbiamo uno steward all'interno della struttura, però... Quindi voi avete preso questa vigilanza privata? Sì, noi l'abbiamo messa in pratica dai primi di luglio, ma sono tanti. Quando la polizia arriva sono vado a casa, non di più del lavoro. Innanzitutto c'è un'incapacità, in una inadeguatezza totale da parte del governo, che non riesce a gestire. Ma lei frequenta gli hub? Lei frequenta gli hub? Sa cosa succede? No, io non li frequento. Sono molto perché... preoccupato sull'immigrazione. Io tendenzialmente vado a capire dentro che cosa accade. Accade allora, che le identificazioni vengono fatte sistematicamente. Dopo aver capito che Gassaldini è il ministro degli interni in pectore, perché Alfano non è in grado di darci perché il mio è abilissimo di farlo, non si preoccupi. No. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. A Radio 24 sono impazziti ancora, penseranno i nostri ascoltatori, ma abbiamo scelto questa canzone per salutare Diego Parassole. Buongiorno Diego. Alessio, buongiorno Carlo. Oggi apprezzo particolarmente la tua R che è andata in vacanza. Ti ritorno da Expo, Diego Parassole. Ti piace questa canzone? Canzone ambientalista di Bertoli tanti anni fa. Tanto salutiamo anche il grandissimo Pierangelo Bertoli. Salutiamo dove sta, perché riposa in pace. È un po' malinconica, devo dire. Sì. Io di ritorno da Expo vorrei invece essere fiero di buone notizie, di calma, di energia, di cibo e tutto il resto. Ci hai portato qualcosa da mangiare? No, ho trovato chiuso. No, non è vero. Sei stato nel padiglione svizzero? Perché la mia grande non c'è più nulla nel padiglione. È quello che mi chiedo, se è finito tutto. No, il caffè mi sembrava che ci fosse ancora, perché il caffè è più difficile di poi avere la moca. No, ma mi diceva Diego che tutti i padiglioni belli non si poteva entrare. Sì, oggi devo dire, c'era poca gente, in Expo non c'era tantissima gente, non c'erano quasi code, tranne che nei padiglioni belli, quelli che continuano a mancarmi, e non so, o mettono le code solo il giorno in cui vado io o lì c'è sempre coda. Cioè tu continui a guardare i padiglioni brutti perché non c'è coda. Esatto. Forse non è un padiglione, magari è un gabinetto pubblico e tu dici guarda è libero, andiamo subito, ma non è un padiglione, non è il padiglione di toilette. Devo dire, oggi ho avuto una grande soddisfazione perché volevo sapere, scoprire dove erano le casette dell'acqua, perché dici Expo, la sostenibilità, ci eccetera. Sono dentro Expo le casette dell'acqua? Ci sono dentro Expo. L'acqua pubblica. E devo dirti la verità, ho fatto un test, ho incominciato a chiedere a un po' di persone di Expo, ufficio informazione, tutte, me le hanno sapute indicare fare, ho anche fatto le foto che vorrei poi mostrarvi qui in radio. Ed è la cosa più radiofonica che pensavamo anche noi, mostrare delle foto. Assolutamente. No, cosa sono queste casette là? Cioè, le casette dell'acqua pubblica. Sì, sì, sì. Ma esatto. Ci sono anche fuori da Expo, però. Ci sono anche fuori da Expo, però è importante. Perché devi sapere che hai toccato un argomento. Siccome adesso sembra che Beppe Sala vuol lanciare Milano come sede dell'Authority per l'acqua, cioè l'ascito di Expo potrebbe essere questo. Tra l'altro è divertente perché in questo momento c'è il livello del Lago Maggiore del Ticino ai minimi storici, quindi l'acqua rischia di finire. Beh, tu sai che l'acqua è diventerà sempre più uno dei grandi problemi dell'umanità. Ci sono decine di fiumi, il Nilo, l'Indo, il Gange sono un decimo della portata che avevano una volta. Il Colorado, per motivi di dighe, da anni non arriva più al mare. Il lago di Tiberiade, quello dove si dice che Cristo abbia camminato sulle acque, è quasi asciutto, attraverso piedi anche se sei ateo. Ma ci camminiamo tutti. Ecco. Esatto, sì. Oramai l'acqua sta diventando un bene prezioso e quindi da questo punto di vista porsi il problema mi sembra fondamentale. Però sono contento che in Expo, che è un contesto molto business, diciamolo, puoi bere troppo anche business, gratis. Troppo business secondo te? È una domanda? Sì. Sì, forse un pelino troppo business su alcune cose, perché vedo per me, per i miei gusti, pochi contenuti e molto, molto colore, molto, molto bello dall'esterno, sì. E pochi contenuti. Lo ha detto anche Beppe Sala indirettamente qualche giorno fa, gli hanno chiesto una cosa che non gli piace di Expo, ha detto ci sono degli stand, quelli che non stanno sul decumano, perché il decumano è quello dove tutti transitano, ha avuto molto successo questa formula, tra cui per esempio Slow Food, che è quell'associazione che da decenni porta avanti un certo concetto di nutrire il pianeta e che è quasi vuoto, perché li hanno lasciati ai margini, quindi in effetti questo è un po' un paradosso. Assolutamente è un po' paradossale da questo punto di vista. E poi ti è piaciuto molto lo stand dell'America, mi dicevi. Allora, mi è piaciuto moltissimo lo stand dell'America, perché sono entrato e sono uscito, non c'è niente, si può dire tutto qua, sì, al piano inferiore c'è qualche video eccetera. Detto fra di noi, ho visto di sfuggita un video dove bevevano Pepsi Cola, che se lo sanno gli sponsor di Expo un po' si arrabbiano, perché sono Coca-Cola gli sponsor. Sì, e quindi mi è sembrato un po' ma questa guerra, forse era par condicio. Questa guerra esiste ancora tra la Pepsi e la Coca in America? Direi in tutto il mondo. E poi sali al piano di sopra, che è una terrazza col bar, e c'è il chinotto, e lì c'è solo chinotto. No, la chiudiamo. Non c'è neanche il chinotto, quello credo lo si trovi altrove. E poi devo dirti che mi ha colpito moltissimo lo stand dell'Iran, devo dirti, uno dei pochi dove appunto sono riuscito a entrare senza fare, no, ci sono tanti. Non c'era nessuno allo stand dell'Iran. No, allo stand dell'Iran c'era poco, no? Sì. E la cosa che facevano vedere sono le piante dell'Iran, i fiori dell'Iran. Sembra e giusto. Sì, e ho fatto moltissime foto a delle, pensa, ho visto dei vasi di salvia e di rosmarino, che è una cosa però di un genere, di una specie iraniana, quindi diciamo. Sì, esatto. Esattamente. Era molto simile a quella italiana. Molto simile. Secondo tutto me, il mondo è paese, per via dell'immigrazione clandestina delle piante, ne abbiamo avute anche noi qui. E anche dei fiori, però, con quel retrogusto di petrolio, però dei fiori. No, ma scusa, nello stand nell'Iran ci sono solamente delle piante di basilico e erba salvia? No, sì, c'è anche qualche fiore. Dopo ti faccio vedere le foto. Pensa che io ho scoperto, a proposito di piante, sapete che c'è lo stand dell'Austria, che è quello dove c'è soltanto, diciamo, foresta, no? Soltanto alberi, no? E ho scoperto che l'Austria, che non ha quasi agricoltura, perché ha appunto quasi solo delle foreste, ha più impiegati in agricoltura dell'Italia in percentuale. Quasi il 6% in Italia, se io intorno al 4%. E come siamo mai battuti questo? Anche dall'Austria. Non lo so, ma ha colpito però questo dato, perché in Austria, dove non c'è agricoltura. Ma cosa fanno gli agricoltori in Austria? Lavorano in banca, magari, però. È impossibile. Probabilmente lì hanno braccia rubate l'economia, che fanno gli agricoltori, mentre noi abbiamo. Devo fare agricole, quelle robe lì. Assolutamente. Tu hai cominciato a occuparti di queste cose qua, però prima dell'Expo, quando ancora non si sapeva che ci sarebbe stato proprio neanche la prima edizione dell'Expo. Tu hai cominciato con i tuoi spettacoli tanto tempo fa. Adesso l'ultimo libro che hai scritto, All You Can Eat, mangiare meglio per non stare a dieta domani, è come dire, la, cos'è il terzo di una triade? Allora, il libro, questo è il primo, sì, libro sul tema del cibo. Prima ne avevo scritti altri, sai, diciamo quelli dell'epoca Zelig, Pistolazzi, sì, queste cose. Te li devo portare perché comunque, certo, comunque fanno ridere. Potremmo anche pubblicizzarli, tanto non sono più in vendita. Però a parte questo, questo è il primo libro che dedico al cibo ed è tratto dallo spettacolo Saldi di Fine Futuro, che era l'ultimo, sì, spettacolo, cioè Saldi di Fine Futuro, perché sul cibo stiamo arrivando un po' al capolinea, alla se frutta, i dati, diciamo, alla frutta, ma rischiamo di non trovarla. Se i dati che ci danno FAO, World Watch Institute, dico queste cose per sembrare colto, ma in realtà non è sembra vero. Sembra che spara cavolate, no, Diego Parasole, ma la prefazione del libro gliela ha scritta il professor Segre, che non è uno che scherza, è il preside di Agraria di Bologna, Last Minute Market, quindi è un'autorità. Il libro nero degli sprechi, sì, sì, devo dire, ci siamo conosciuti in diversi eventi e anche dei convegni. Io poi, se mi dedico molto ai convegni, possiamo dirlo, domani sono a Granara con Stefano Caserini, un importante climatologo che si occupa del Politecnico Prevenzione dei Cambiamenti Climatici, e invece con, mi è capitato diverse volte di fare anche interventi e spettacoli col professor Segre, che devo dirvi fa questa lotta estrema allo spreco, e lui addirittura testa, lo dico io, tanto lui non potrebbe dirlo perché sembra un invito che può danneggiare la pubblica salute, testa prodotti, mi raccontava scaduti, che scaduti lui stesso su di sé, cioè mi diceva a che non arrivato... ti ha fatto provare nulla, non ti no, ha fatto no, no, no. Ma tipo, cioè, tipo un chilo di salmone affumicato scaduto da un giorno, perché quello lo testerei anch'io volentieri. No, però per esempio mi diceva, se ben ricordo, perché ti parlo di una cosa di un annetto fa, che lo yogurt, gli è capitato di mangiare anche yogurt scaduti da un anno, perché di fatto io non li mangio neanche se non sono scaduti, quindi cioè, semplicemente hanno meno fermenti lattici vivi, diciamo che hanno dei fermenti lattici in coma. Comunque devo dire che Diego Parasole tutto quello che dice non ha sotto il suo libro, quindi tutto quello che dice è quello che sa veramente, e sono anche un po' invidioso. Però, perché mi sta diventando un professore. Volete volete sapere una cosa? Certo, ce la dici dopo. Cose, ve la dico dopo. Dopo la pausa. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo con Diego Parasole, che ci stavi svelando qualche cosa che riguarda i test del professor Segre. Sì, sì, che lui testa costantemente le cose scadute, anche perché è giusto dirlo, sì, normalmente le cose scadono, ma c'è scritto consumare preferibilmente prima del, che vuol dire che sono mangiabili, eccetera. E è lui... sicuro, è esattamente così, giusto? Se c'è scritto preferibilmente vuol dire che se tu lo mangi dopo in realtà non ti fa male, però magari è modificato un po' il gusto. Sì, è modificato un po' il gusto, poi chiaramente dipende dal prodotto e dipende da dove è stato conservato, e lui, certo, testa anche su di sé queste cose. Un giorno mi ha confidato di avere tre figli, gli ho detto: hai visto testare i preservativi scaduti? Ha riso molto. No, devo dire che Andrea, giusto. Ne parlo come fossimo amiconi, poi io lo chiamo professore, però... fa veramente tanto nella lotta allo spreco, lo dico perché lo penso e perché sono l'HPedi. Giusto, senti, ti devo leggere un tweet, Alessio, visto che prima abbiamo parlato con il buon Carlo Freccero. Luca Tosco Romano scrive un tweet che dice: Toto Freccero, hashtag Toto Freccero, quanto durerà Freccero nella Rai renziana? Un mese, due mesi, tre ore, vota. E poi siamo taggati anche noi due. Tre ore sono già passate, quindi diciamo... mi sembrava corretto leggertelo. Allora, andiamo con qualche ascoltatore, poi Diego Parasole ci regalerà qualche altra pillola di saggezza più o meno folle da Expo. Ettore da Piacenza, buonasera. Buonasera, ma secondo me Freccero potrebbe durare anche sei mesi, però non gliene do molti di più. Ah. È l'unico che sa qualcosa di televisione, sì, rispetto alla lottizzazione ennesima che si è perpetrata con le nuove nomine della Rai. E lei dice che è pericoloso, effettivamente, dovendosi occupare del consiglio di amministrazione della Rai, sapere di televisione evidentemente è utile, può essere utile. Sì, diciamo che nelle aziende private, quale quella dove lavoro io, normalmente nel CDA ci sono le persone che sanno, che conoscono la materia. cioè certo. Quale sono chiamati. Lei è fortunato però in che azienda lavora, perché mica sempre è così, e non solo nelle aziende pubbliche. No, io lavoro fortunatamente in un grande gruppo bancario italiano che nelle scelte che ha fatto sinora è tutto in ordine, è tutto in ordine. Direi che non è il Monte dei Paschi di Siena, così a sensazione. Che non è il Monte dei Paschi di Siena. Ma non lo dico perché ritengo. No, era una battuta. Più fortunato di loro. Okay, Ettore, no, volevo solo dire che io non ho, per esempio, la televisione in quanto la possiedo, ma la possiede la mia compagna, quindi è lei che paga il canone. Ritengo che sia una delle cose, ma è un dato di fatto. Ma abitate in casa insieme, oppure no? Assolutamente sì. Ah. Il problema è che continuano a tartassare me in quanto titolare dell'appartamento da anni. La cosa mi fa un po' ridere, anche perché siamo vittime di leggi e di decreti che risalgono ai tempi del fascio, e come al solito, siccome il mondo va avanti ma le leggi, specialmente in Italia, i regolamenti rimangono indietro, c'è ancora questa gabella medievale. Ma mi scusi, non ho capito, nel senso che la sua compagna paga il canone per il suo appartamento, quindi che cosa va, la mia compagna paga il canone in quanto lei è la proprietaria dei televisori. Esatto. E io, pur essendo proprietà, siccome è un discorso che è diventato, cioè vogliono fargliene pagare due di canone, non ho capito. Dovete sposarvi forse? Esatto. No, ma non è quella la soluzione. Secondo me, ripeto, è l'arretratezza culturale di leggi che risalgono in tempi del fascio, che nulla hanno a che vedere con. Adesso guardi, facciamo così, richiamiamo Freccero e glielo diciamo, perché questa cosa di due canoni mi sembra francamente un po' troppo. No, ma io conosco gente che ha anche la seconda casa, e solamente per il fatto che ha la seconda casa deve pagare dovrebbe pagare un secondo canone. Grazie, Ettore, grazie. Sì, vabbè, se stiamo sul canone ci stiamo fino a domani, perché nessuno vorrebbe pagarlo, tra. Poi ripeto, figurati, pagarne due o addirittura tre. Lino da Modena. Lino? Non c'è Lino da Modena. Adesso ricominciamo come ieri sera con le telefonate. In attesa io di... mi alzo e me ne vado. In attesa di Lino. È strano, perché io non so perché, ma pago anche il canone di Radio 24. Non so, forse sono l'unico. Cos'è il canone di Radio 24? A me, Diego, non è arrivato nulla, te lo dico. Non è arrivato nulla, per cui... Abbiamo Lino? No. Allora andiamo con... Tiziano da Brescia. Tiziano. Eccomi, buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Il mio intervento invece è più che sul canone, che lo sapevamo tutti, una gavella che si dovrebbe pagare, è ancora inerente al discorso delle discoteche, o meglio, sul discorso della droga. Mi fa ridere lo Stato che vuol chiudere una discoteca per combattere il fenomeno che lo Stato stesso non riesce in realtà ad arginare, o meglio, non riesce neanche a trattare. È come dire ci sono le buche sulle strade, abbassiamo il limite dai 130 ai 90 all'ora, perché così almeno nessuno si fa male. In realtà il chiudere una discoteca per non affrontare in maniera pesante con la legalizzazione, piuttosto che con il fatto di punire pesantemente chi ne fa uso, chi non ne fa, o chi spaccia, in realtà si chiude la discoteca solo perché non si ha altro modo per poter intervenire. E cioè, secondo lei bisognerebbe punire pesantemente chi fa uso di droga? Ma, secondo me sì, come anche chi ne fa, chi spaccia la droga. Io ho quelli forse, o no? Sì, ma in tutti e due i casi. Io ho 40 anni, sono andato anch'io parecchie volte nelle discoteche, anche al Cocorico. Ce l'ha qualche aneddoto sull'epoca? No, aspetta, mi lasci dire una cosa. Prego, prego. Il presupposto che la pastiglietta piuttosto che la dose l'avevano offerta anche a me all'epoca. Vabbè, la offrono tutti, ovvio. No, infatti, però se sei una persona con due dita di cervello e sai a che cosa puoi andare incontro, la rifiuti. Quindi per me anche chi fa uso comunque, adesso magari dirò una cazzata, dirò una cosa fuori, però anche chi fa uso, quindi cioè non è che poi possa lamentarsi come se tu vai a 200 all'ora su una strada e caspita ho fatto un incidente, ma lo sapevi. No, cioè adesso no, su questo da un lato uso è semplicemente una vittima. Ma no, assolutamente, però il problema è che un conto è assumere delle droghe pure, e un conto è assumere delle droghe tagliate male che in realtà ti ammazzano, allora quella non è una droga. Quindi mi sta dicendo che assumere comunque una droga pura è meno grave che assumere una droga tagliata male. Ma dipende come intendersi sul mondo delle droghe, perché sa, anche il whisky tecnicamente è una droga, quindi io non voglio mettere in galera chi beve whisky, quindi... No, ma infatti la differenza è che il whisky lo Stato è riuscito a legiferarla, e quindi anche a farne un guadagno, perché non riesce a trattare anche questa droga. Questa è una bella domanda, è vero, bisognerebbe occuparsene e non lasciarle in mano alle mafie. scusi, non esiste una droga meno droga o meno peggiore dell'altra, perché alla fine l'effetto lo pago anch'io che non la uso. Beh, no, esistono droghe leggere, droghe pesanti, perché in drogheria si compra anche il caffè. Adesso non è che vogliamo discutere di caffè, immagino. Sono d'accordo con lei, anche il sesso per assurdo per alcuni può essere una droga e non si legifera neanche quello per assurdo. In che senso? Vorrebbe che si legiferasse, nel senso che non si può fare troppo l'amore? Ma sì, dai, non penso sia così stupido. Sto parlando della prostituzione, anche il senso, in quel senso può essere un problema per assurdo, ma non si legifera, non si vuole intraprendere nemmeno una soluzione per quello. Si è legiferato, forse sbagliando, ma si è legiferato chiudendo le case chiuse. Ho capito, ma facendo è lo stesso modo di legiferare che fa adesso lo Stato col coprirco. No, infatti. Voglio mettere le mani davanti agli occhi, così non è legiferare, così è mettere la coda fra le gambe. Allora, io sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Siete d'accordo? Allora, siamo tutti d'accordo. Il problema, secondo me, è anche chi la usa, che non deve essere sempre. Vabbè, questo l'abbiamo capito, poverino, Tiziano. Lei ha ragione. No, ma ha ragione, figurati. Non è che chi la usa deve essere scusato o cose di questo genere. Bisogna stare attenti a quello che si fa. Io l'ho detto ieri sera: prendere una pasticca, per esempio, da uno che non sai nemmeno chi è una follia, no? Sì, però forse a volte a 16 anni si fanno anche delle cose delle magari cazzate. Con loro nome, va benissimo chiamarle delle cazzate. Non credo che bisogna morire per delle cazzate, ecco. Rossano da Bari, però è quello che è successo. Rossano appunto. Da Bari. Rossano, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Io voglio subito dire che grazie alle discoteche ho conosciuto la mia attuale moglie, perché adesso ho 40 anni e una ventina d'anni fa facevo il PR in una discoteca universitaria di Bari e gestivo la linea rosa, cioè le prime 100 donne che chiamavano entravano gratis. Vabbè, è facile così trovare la fidanzata, però mi scusi. Questo è un mestiere che vorrebbero fare tutti. La pagavano per fare questo? Sì, praticamente andavo, come dire, a provvigione, cioè ogni persona che entrava pagando, però io avevo la mia bella percentuale da studente universitario e poi ero sull'uscio a valutare l'ingresso free per anni ruggenti, immagino, Rossano, fantastico, certo. A nostalgia era il giovedì universitario. È bella questa storia. Quindi lei ha preso dei soldi, diciamo, per far entrare la sua attuale moglie in discoteca? E non è una battuta, non è che sì, diciamo di sì. E comunque io sono più che favorevole al provvedimento restrittivo. Ho sentito parlare di legiferare, ma in realtà non è stata fatta una legge, è stato applicato il TULPS, il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, perché ero ragazzo io e si sapeva che andare al Cocoricò equivaleva ad una prova di, come dire, coraggio per i minorenni. Lo sballo lì c'è sempre stato. Io ho visto, ne ho girate tante. Ma lei c'è stato al Cocoricò? C'era stato ai suoi tempi? Al Cocoricò personalmente no, proprio perché sapevo che lì prima o poi ti poteva capitare di imbatterti con determinati personaggi. Ma e come mai è a favore, cioè lei è a favore della chiusura della discoteca per 4 mesi? Sì, è chiaro, perché dice che secondo lui allora, Cocoricò è un luogo dove si sa che si spaccia. Sì, ho visto buttafuori in certe discoteche venirti a prendere per le orecchie e buttarti fuori semplicemente se avevi lo spinello. Ho visto buttafuori girarsi dall'altra parte, ho visto responsabile della sicurezza evidentemente far finta di nulla, anche perché negli anni si è creato quasi lo status symbol del Cocoricò. Uno di certo non andava al Cocoricò per ascoltare, come dire, la musica dal vivo, spesso, però un po' in nessuna discoteca è così, nel senso che, mi scusi, lei sta dicendo c'è discoteca e discoteca, ci sono alcune discoteche che sono più attente alla questione della droga e altre che lo sono meno e che quindi meritano di essere chiuse perché non controllano e verificano effettivamente, ma va applicato quello che è il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Attenzione, i gestori della discoteca hanno fatto un ricorso amministrativo e il giudice valuterà se c'erano o meno. Non si tratta di chiudere tutte le discoteche, si tratta che se il buttafuori vede entrare uno che si è preso una palletta di ecstasy poco prima, non lo fa entrare. E soprattutto se entrano personaggi loschi, io mi ricordo vedevo i buttafuori anche in prossimità dei bagni, che è luogo per antonomasia dove si spaccia, stare con tanto di occhi aperti e chiamare le forze dell'ordine. Stiamo restando che poi anche nelle discoteche più chic ci sono i privé dove i colletti bianchi fanno ben altro, voglio dire, il problema c'è. ma ben venga chiudere quelle discoteche dove non si sta attenti, bisogna elevare la soglia del controllo. Ecco, io posso dire questo, le discoteche, scusi, vorrei aggiungere anche che ho visto butta fuori sequestrare gli spinelli e poi fumarseli di nascosto. Non sto scherzando. A proposito di droga, posso aggiungere una cosa? Se volete, adesso non prendetelo come una cosa vera, mi risulta come un invito a drogarvi che in Perù il mais sminuzzato, triturato più fine che la nostra polenta sia sniffato perché contiene un alcaloide che è già eccitazione psichica. Quindi, se proprio volete drogarvi, non prendetelo come un invito alla droga, però se proprio volete, non potete farne a meno, piuttosto sniffate polenta, sniffate biologico, certo, sniffate italiano, non sniffate OGM. Okay? Una bella pannocchia, questo è esattamente. Va bene, sniffate polenta, mi sembra ottimo. 800024 0024 Senti il mondo una canzone, il voci maschi e forte viene, parla di monti e di bandiere. Diego Parassone, tu che sei ormai un divulgatore scientifico che parla di ambiente, dovresti riconoscere, anzi sicuramente conoscere questa canzone che è l'inno del corpo forestale. Ah, avevo pensato all'altro inno, quello di Benigni, che però non aveva niente a che vedere col corpo forestale. È un altro corpo che rischia di non esserci più. Esatto, perché la notizia è questa, che insomma con l'approvazione della riforma sulla pubblica amministrazione il corpo forestale viene assorbito in altre forze, probabilmente, si dice, pare, sembra, si mormora, nei carabinieri. Oggi i forestali hanno protestato, c'è chi li difende come un corpo d'eccellenza che lotta contro i reati ambientali, c'è chi parla di sprechi. A proposito del corpo forestale, Andrea Laganà, buonasera. E buonasera a voi. Segretario del Sindacato Nazionale dei Forestali, siete diventati, vostro malgrado, un simbolo degli sprechi negli anni. Perché? Se ne è fatta una ragione di questo? Forse per tutte queste assunzioni nel sud, in Calabria, in Sicilia. In Sicilia si calcolano 28.000 forestali, molti, quasi tutti precari. Guardi, su questo forse vi ringrazio della possibilità che date in questo momento per poter spiegare una volta per tutte, perché sono più volte che diciamo sempre le stesse cose. Sì. Un conto sono gli operai forestali che vengono assunti, come lei dice, nelle regioni sud Italia, che non c'entrano nulla col corpo forestale dello Stato. Quindi che sia chiara una volta per tutte questa distinzione. Il corpo forestale dello Stato è un corpo di polizia composto da 7.500 persone. Sì. Tutti gli sprechi di cui tanto si parlano delle assunzioni fatte dai governi regionali che si susseguono di volta in volta, di operai stagionali forestali, che non c'entrano assolutamente niente col corpo di polizia di cui faccio riferimento. Ecco, quindi come si spiega allora però questo accanimento che c'è stato nei confronti del corpo forestale, che è diventato qualche cosa che andava tolto, andava eliminato? Questo accanimento io lo spiego, l'hanno spiegato tranquillamente gli attuali governanti, il ministro Maria al Question Time di qualche mese fa al Senato ha pubblicamente detto che lo spot elettorale, che tanto di questo si tratta, del presidente Renzi, era quello di far passare il messaggio che i cinque corpi di polizia a livello nazionale, carabinieri, appunto, forestale, polizia di Stato, polizia penitenziaria e guardia di finanza sono troppi, come in effetti lo dico anche io che sono troppi, ma un discorso serio e sano di riorganizzazione del comparto sicurezza. Sì. Forse sarebbe il caso di farlo in maniera reale e concreta, creando solo una forza di polizia militare e una civile. Non si capisce perché da 5 a 4, e come diceva la Madia, dicevo poco fa, ha tranquillamente detto al Senato che hanno cominciato da quello più piccolo, che siamo noi. Questo è il motivo per cui c'erano tanto con noi. Qual è la vostra sorte? Accorpati coi carabinieri? No, di fatto oggi il Senato ha sancito lo scioglimento, lì poi si fanno i giochetti o i nomi, no? Scioglimento, smembramento, io non parlo politica, ti dico, quindi hanno cancellato di fatto 193 anni di storia, perché il corpo forestale sono 193 anni che dipende la natura, l'ambiente dove viviamo tutti i giorni. Si sono presi questo bellissimo record, no? Che glielo ricorderemo e spero glielo ricordino anche tutti quanti gli italiani. Si parla solo, appunto, di fatto non si sa nulla perché le parti sociali sono state completamente estromesse ogni tipo di concertazione, ma Borenzi questo è un mago, e quindi sinceramente io non so cosa dirle, cosa rispondere, perché non lo sappiamo. Sì, si vocifera che forse andiamo nei perché carabinieri. Diciamo che una cosa ancora più negativa che avevate, di cui eravate preoccupati, era che il corpo venisse smembrato in tante piccole parti, assorbito dalle altre, diciamo, polizie, dagli altri corpi militari, e invece sembra che il corpo rimarrà compatto all'interno di un'altra, diciamo, di un'altra arma, è così? Infatti questo, ripeto, purtroppo ancora non si sa, non si, non sa. Si sa, si saprà a settembre ottobre quando ci saranno appunto. Ma anche perché ho letto una sua dichiarazione dove lei diceva: speriamo di poter almeno scegliere in che corpo finire. Non so se intendeva singolarmente delle singole persone o se tutto il corpo della forestale in che altro corpo finire. Guardi, da quello che purtroppo è venuto così a nostra conoscenza, ma per via traverse, non perché siamo stati mai contattati dal nostro comandante generale o tantomeno dal governo, sì, è uscito fuori che il corpo forestale dovrebbe transitare in arma dei carabinieri, no? E poi qualche finestrella, così l'ha definita il nostro, il mio comandante del corpo, qualche finestrella resterà lasciata aperta per chi vuole andare altrove. Ecco, non sappiamo che cosa vuol dire transito nei carabinieri, non sappiamo cosa vuol dire finestrella, non sappiamo assolutamente nulla. Ma il contrasto ai reati ambientali, no? Cosa che avete fatto, tra l'altro scriveva Rizzo qualche giorno fa sul Corriere, se non sbaglio, che frutta all'erario, la lotta ai reati ambientali, quasi 30 milioni di euro l'anno, quello che portate voi, che è quasi il costo tra l'altro del vostro apparato, per cui diciamo, qualcuno diceva un corpo che va in pari, che si autofinanzia. Si autofinanzia. Parlava di sprechi, ho spiegato qual è il discorso di sprechi. Noi non siamo gli operai forestali, siamo il corpo forestale. I soldi, sì, che vengono spesi per il personale, che sono 490, il corpo forestale costa allo Stato 490 milioni di euro l'anno, ok? Di cui il 90% sono gli stipendi, quindi sì, certo. o li paga un ministero, o li paga un altro, sempre di stipendi parliamo. Questi famosi 10% sono i 30 milioni di cui parlavamo poco fa, che vengono tranquillamente riassorbiti dalle sanzioni amministrative che facciamo noi tutti gli anni sul territorio. Quindi abbiamo smentito categoricamente che non è un discorso di risparmio economico, tutt'altro. Ma voi potrete continuare a fare quello che facevate prima se verrete assorbiti dai carabinieri, oppure c'è un motivo per cui la fine di questa storia, come dite voi, cioè non potrete più lavorare? Io non credo che non possiate più lavorare, potete lavorare anche all'interno di un altro corpo, oppure questo, no? Alla fine di... Abbiamo scellerato il progetto di questo governo, sì, alla fine porterà in tutto e per tutto alla fine del corpo forestale. Noi ce lo spieghiamo che qualcuno ci dia la possibilità di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, anche se andare in un corpo di polizia come i carabinieri o la polizia del Stato, che sono generici, forse è lì che un governo serio avrebbe dovuto intervenire, visto che fanno le stesse identiche cose. Qualcuno dice si deve fare un moderno corpo di polizia ambientale, qualche cosa del genere, ma voi che cosa fate? Cioè, concretamente lei si alza la mattina e che cosa fa? Va nelle foreste? No. Guardi, io visto che non faccio il sindacalista H24, anzi sono un comandante di stazione, di una stazione forestale in Abruzzo, e poi faccio anche attività sindacale, quindi parlo con una persona che tutti i giorni sta sul territorio. Io mi alzo la mattina, l'inverno andiamo a fare i rilievi sulle valanghe, il Medomonte, controlliamo lo strato di nevoso per vedere se sta pure di valanghe, per far tranquillamente sciare le persone sulle piste da sci, sì, l'inverno andiamo a fare soccorso dove serve, soccorso piste, soccorso alpino, soccorso in montagna. L'inverno, d'estate, si sta la lotta agli incendi boschivi, si sta il controllo sul bracconaggio, si sta il controllo sulle cave, si sta il controllo sull'abusivismo edilizio, sulla terra dei fuochi, visto che ormai purtroppo... Dio, lì non è che abbiate controllato molto, perché è successo un po' di casino, non me ne siete accorti. E siamo relativamente pochi, 7500 agenti, tutti ufficiali di polizia giudiziaria, calcoli che sono loro, ma i vigili urbani sono più di noi. Quindi questo dato mi sembra molto preciso. Quanto è lo stipendio in media di un dipendente del corpo forestale? Lo posso chiedere così per curiosità? No, guardi, facendo una media tra appunto i funzionari, il ruolo diciamo apicale e l'ultimo agente entrato, parliamo di 1.300-1.400 euro al mese. Quindi c'è chi guadagna meno di questi 1.300 euro netti al mese. E chi guadagna ovviamente abbastanza di più. E chi guadagna abbastanza di più. Troppo. Ma... forse di più negli uffici, dirigenti, soliti... Sì, vabbè, questi sono discorsi che sinceramente eviterei, ma non per incorrere in sanzioni, per carità, ma perché non mi sento proprio rappresentato da... No, da ma non si... per incorrere in sanzioni, non per quello, per altre questioni, non la capiamo. Ma invece le volevo chiedere una cosa che forse, mi perdoni l'ignoranza, ma voi siete comunque, fate parte delle forze dell'ordine già adesso o no? definita con una legge del 1981, siamo entrati tutti gli effetti come un quinto corpo di polizia. Esatto, quindi io non capisco, nel senso che mi sembra di aver capito che la vostra protesta è no alla militarizzazione del corpo forestale, ma voi siete già dei militari in realtà, o no? Allora, nei cinque corpi di polizia, come dicevo prima, ce ne sono tre che hanno un ordinamento civile, che siamo noi, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, e due che hanno un ordinamento militare, che sono l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Ah, quindi il fatto di essere militari non è il fatto che voi siate armati o meno? Noi siamo armati come gli altri. Infatti, quindi voi siete già... No, era questo che dicevo, siccome siete già armati, siete già uno dei corpi della polizia, non capivo come mai questo cambio fosse così, così terribile. No, ma parliamo appunto di due ordinamenti completamente diversi, cioè tutto quello che è stato, diciamo, ottenuto, magari, perché anche il corpo forestale negli anni 20 era militarizzato, ci stava la famosa milizia nazionale forestale, no? Poi ci fu il dramma della guerra e quant'altro, e poi, diciamo, fu militarizzato il corpo forestale dello Stato. Cioè, sono state avute e fatte un sacco di battaglie anche per i diritti all'interno dell'amministrazione nostra, no? Come penso anche il discorso sindacale, che cosa nei corpi militari non c'è. Quindi la questione è di rimanere un corpo civile e non un corpo militare, questo è. Esatto, ma è possibile, come fai? Se tu entri e subentri nel corpo dei carabinieri devi essere per forza militarizzato. No, è chiarissimo. Non capivo la vostra paura di essere militarizzati, invece adesso l'ho capita, è il fatto di avere una gerarchia militare e non di essere un corpo civile. Non è tanto una paura. No, è chiaro. Perché magari chi a chi parte con una mentalità a 20 anni di continuare a fare un certo tipo di discorso militare è un discorso, un conto che c'è 50 anni, 55 anni che viene qualcuno più o all'altro e ti dice: senti, sai che da oggi da ordinamento civile torni a fare militare, cioè capisci bene che sono cose completamente diverse. Solo una domanda, ma assorbire in un corpo in un altro corpo dà dei vantaggi anche economici? È una delle motivazioni per cui viene fatto questo? Ah, questo è sottinteso di fondo del governo, certo. Però non capisco come. Siamo dimenticati di fare la domanda più importante: quanto pensa di risparmiare il governo? Ve l'avranno detto da questa operazione? No, non ce l'hanno detto perché non lo sanno neanche loro, perché non sanno manco cosa dicono, non sanno manco di che cosa stanno parlando. Vabbè, così duro. In bocca al lupo per lei e per il suo lavoro e per il corpo. Come lo chiameremo d'ora in poi? Non lo chiameremo più corpo forestale. E purtroppo, secondo gli attuali governanti, speriamo magari un referendum abrogativo o un ricorso alla Corte Costituzionale, o addirittura al prossimo governo che magari ripristina un nuovo corpo forestale dello Stato alla faccia di chi ci vuole sparire. Ah, lei dice che tanto in Italia è sempre così: un governo fa una cosa, poi arriva il governo dopo e fa la cosa opposta. Questo può darsi. In questo caso lo spero vivamente. La sta un po' mandando a Renzi, ma comunque va bene, non so come si chiameranno. Non ha voluto parlare degli stipendi dei superiori e parla così del governo. Attenzione, perché i superiori restano, i governi cambiano. Facciamo una cosa, visto che non ho finito la lingua e non c'ho pure di niente. No. Guarda, dai dirigenti superiori che sarebbero equiparati a un discorso di generali, perché poi le prime mi diceva: ma quant'è lo stipendio? Sì. Se uno va nei carabinieri, più o meno lo stesso, perché i livelli retributivi sono praticamente identici per tutti quanti i cinque corpi di polizia, quindi ci sarà pochissimo di differenza, un più o in meno. Un generale, un da noi, un dirigente superiore, sta guadagno sui 4-5.500 euro al mese. Netti parliamo. Sì. Certo, perché i loro superiori diventeranno generali. Anche da voi c'è l'usanza di andare, di mandare in pensione e di promuovere pochi giorni prima? No, assolutamente no. Noi ho 60 anni per la truppa, tra virgolette, quindi sotto ufficiali. Negli altri corpi però succede questo, forse non nei carabinieri, ma nell'esercito, forse più nell'esercito. Forse nell'esercito è successo. Questa cosa si sa, era una convenzione, adesso forse non si fa più, ma prima si faceva. Ma prima si faceva, adesso non si fa più. È vero, un mio amico era caporale, è andato in pensione col grado di generale, proprio ha fatto un salto di qualità di carriera incredibile. Grazie la Galà, buona serata. Grazie mille. Vi ringrazio per lo spazio che ci avete concesso. Ci mancherebbe, grazie a voi. Questo lì no del corpo. Vedi un po' cosa hai combinato, Diego Parassoli. Lo può cantare. L'hai evocato. Se vogliono sciogliere il corpo forestale, è sciolto. È il corpo sciolto. Perché cantare soprattutto è cosa umana. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò, insomma, che nessun luogo è lontano. Da lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Eccoci qua, riprendiamo il filo anche con gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo David che chiama da Venezia. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Io chiamavo, come dicevo, le vostre signorine, le vostre ragazze, perché io sono a favore della chiusura dei Cocorico. Sì. Perché ritengo che il locale debba tutelare le persone che ci sono dentro. Ora, siccome dentro ci vanno anche ragazzi giovani, come è successo, e non tutti sono forti, ci sono anche ragazzi un po' più deboli degli altri, che si fa portare di più dagli altri a fare anche certe cose, loro devono evitare che gli spacciatori entrino. E le discoteche non tutelano, perché sono perennemente fuori capienza, e se succedesse qua, perché fino adesso non è successo niente, però se succede qualcosa si trovano, sono fuori capienza, nemmeno lì tutelano le persone. Però giustamente lei dice devono controllare se si vende droga all'interno della discoteca, ma noi non sappiamo se il ragazzo ha assunto droga all'esterno della discoteca, quindi allora, se uno lo fa fuori ha un altro paio di maniche, però la discoteca deve fare il suo, cioè due cani antidroga al con 6.000 persone, non penso che sia un problema di mettere l'entrata, è che loro hanno paura che dopo tanta gente non va. Mi scusi, ma che cosa cambia? Sì, no, cosa cambia se uno si droga o tre metri prima di entrare nella discoteca? Allora, scusi, aspetta, che stavo guidando. Prego, ma, anzi, beh, scusa, cosa parcheggi, cambia? Parcheggi, cosa cambia? Non cambia col telefono. Cambia che intanto trovi qualcuno che te le dà le droghe, perché non è detto. Se uno venisse a casa mia, se si droga fuori il problema, ma a casa mia non lo fa. Sì. No, non solo David, ma c'è capito, anche ma fatto. Siccome il morto non sappiamo dove si è drogato, quindi chiuderla così mi sembra. No, però tanto scusa. Cominciamo a toglierla da dentro. Dopo il fuori ci Bravo. Qualcuno. No, su questo sono d'accordo. Secondo me lo deve fare il Cocorico, ma lo deve fare se c'è un luogo dove si sa che c'è lo spaccio. Il questore, prima di chiudere il Cocorico, secondo me avrebbe dovuto fare degli interventi anche con la polizia in borghese, che entra dentro e cerca di impedire lo spaccio, se quello è un reato ed è una cosa pericolosa. Non chiudere il locale, far finta di nulla e poi a un certo punto paf, chiudere il locale. Questo è quello che dico io, anche perché non dimentichiamoci che nei locali sono luoghi dove puoi andare anche per trovarci la droga, che magari fuori non sai dove andare a cercare. Non è detto che tutti abbiano degli amici spacciatori. A posto, Davide, no, voleva dire ancora qualcosa? Ok, no. Va bene, ciao, grazie. Diego. Io non ho amici spacciatori, cioè adesso io non so che gente frequentate voi, però tu Carlo, senso? Hai amici spacciatori? No, perché detto, non è detto che tutti abbiano amici spacciatori. No, infatti, no. Diciamo che non serve avere un amico per spacciatore. Un modo semplice, no, esatto. Andare in un posto dove sai che la droga. Ma non devi essere tu, è lo spacciatore che è amico tuo comunque. Raffaele da Grosseto, buonasera. Buonasera, saluti a voi, alla redazione e agli ascoltatori. L'intervento verte sulla questione dello scioglimento del corpo della forestale. Certo. Prima di tutto, piena solidarietà a tutti gli agenti della Guardia Forestale, prima di tutto. E poi, no, ma non perdono il posto, guardi, cioè da questo punto di vista stiamo tranquilli, nessuno perde il posto. No. Cioè, no, quello senza dubbio, ci mancherebbe. Però perdo un sindrome di identità anche storica e professionale, secondo questo. C'è da dire una cosa, è un'indecenza, perché maggiore l'esigenza di avere lo Stato sul territorio in maniera capillare, e invece qui avviene tutto il contrario. Nel senso, a parte che si sciolgono i corpi, si tolgono i fondi alle forze dell'ordine, compagnia bella, comunque stanno calando sempre di più, no? Mi scusi, lo scioglimento del corpo forestale al momento è semplicemente il fatto che devono entrare all'interno dei carabinieri, non è un fatto di eliminare un corpo nel senso di avere meno persone sul territorio. Esatto. No, almeno così ci ha spiegato il sindacalista. Addirittura si parlava addirittura di subentrare al corpo dei vigili del fuoco, poi c'è stato un... Adesso si parla di carabinieri, esatto. Si parla dell'arma dei carabinieri. Però è strano anche questo, nel senso, è un fenomeno strano, è unico, non è mai successo nella storia della Repubblica Italiana che si chiude come storia, si scioglie un corpo per accorparlo ad un altro corpo militare, sempre militare, che... No, loro adesso non sono militari, il loro problema è questo, che il corpo della Guardia Forestale non è un corpo militare, loro non vogliono essere dei militari, e invece nel momento che entrassero i carabinieri diventano per forza di cose militari. Esatto, quindi cambia completamente il contesto, cambia completamente... Quindi già, però mi chiedo, nel senso, nessuno ha capito, io mi metto in fila per primo, nessuno ha capito questa scelta qua, anche perché l'Italia, insomma, di carrozzoni, carrozze, carrozzette ne abbiamo diverse, no, in giro per l'Italia. Ecco, sembra strano che poi si cominci poi dalle forze dell'ordine. È un po' strano, nel senso, e poi questa è una fase particolare, nel senso, della nostra storia, della storia nostra italiana, della storia anche del contesto mediterraneo, veramente, cioè, c'è la necessità di sicurezza. C'è la necessità proprio di capillarizzare. Vabbè, comunque, insomma, adesso sì, no, dico, non è che sì. Questi non drammatizziamo, non è che spariscono questi agenti, vengono trasferiti in un'altra, gestiti in un'altra maniera. Ma grazie, Raffaele. Sì, grazie, buona serata, grazie. Titoli, la 7. La commissione di vigilanza ha eletto i 7 membri del nuovo CDA della TV pubblica. In quota PD entrano Franco Siddi, Rita Borioni e Guelfo Guelfi, spin doctor della comunicazione renziana. Per il centrodestra nominati Arturo Diaconale, Giancarlo Mazzuca, Paolo Messa per Alleanza Popolare. 5 Stelle e SEL votano Carlo Freccero, già Rai e Fininvest. Ma sulla RAI, appunto, c'è una nuova spaccatura nel PD. L'opposizione interna parla di imbarazzante lottizzazione. Vota per l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, visto come una provocazione invece dal resto del partito. La minoranza è ormai abituata ad esercitare veti, sbotta il presidente Orfini. E domani il governo indicherà presidente e direttore generale favorito è Antonio Campodall'Orto. La riforma della pubblica amministrazione è legge, ma il governo viene salvato dalle opposizioni che garantiscono il numero legale. Tra le novità c'è la licenziabilità previa bocciatura dei manager pubblici, il colpo di scure sulle partecipate e la cancellazione della forestale. Un altro tassello, un abbraccio agli amici gufi, esulta il Premier. Dopo la Caporetto all'aeroporto di Fiumicino, il ministro dei trasporti Delrio attacca: persi 20 anni, ora è necessaria un'accelerazione degli investimenti nello scalo romano. Intanto per la low cost spagnola Vueling, maggiore responsabile dei disagi subiti dai passeggeri, sono in arrivo pesanti sanzioni. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni denuncia che nel 2015, nel tentativo di raggiungere le coste europee, sono già morte nel Mediterraneo 2000 persone. La maggior parte delle vittime, concentrate tra l'altro nel canale di Sicilia, provenivano dalla Libia. Prosegue l'emergenza sulla Manica e la Gran Bretagna tenta di blindare l'Eurotunnel. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh babe. Beach, on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Due notizie a confronto. Da un lato Forte dei Marmi, l'abbiamo detto, siamo sempre in spiaggia. Il sindaco ha, con un'ordinanza antidegrado, ha tra l'altro rimesso delle reti metalliche per impedire il passaggio, ma la sosta soprattutto dei venditori ambulanti per la lotta al commercio abusivo, ma anche perché infastidiscono la gente sulla spiaggia. E dall'altra invece abbiamo Marina di Pisa, pochi chilometri più a sud, dove il titolare di uno stabilimento balneare cosa ha fatto? Ha messo lì l'ombrellone del viandante, cioè tu passi, chiunque, anche il venditore abusivo, ma non solo, ti hai bisogno di sederti un attimo, di rinfrescarti, hai mezz'ora di tempo dove gratis. Nessuno ti chiede niente, ti chiede soldi. Hai diritto. Più che due notizie a confronto, se posso dire, mi sembra il paradigma di si può fare, ovvero un problema come viene risolto in un posto nello specifico e come forse si può fare, ovvero forse esiste un altro modo per risolvere i problemi. Voi cari ascoltatori, da che parte state? 800 24 00 24. Noi ci piaceva la notizia di Pisa, anche perché è meno nota, quella di Forte dei Marmi ha fatto il giro del web. Alessandro Cordoni è il titolare dello stabilimento balneare Vittoria di Marina di Pisa. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Lei è anche presidente della locale Confesercenti per il litorale pisano. Esatto, esatto. Come ha detto, sì. I problemi si risolvono in tanti modi. E lei ha pensato questo? Io ho pensato da 4 anni fa, proprio dentro al problema di vedere spesso non solo i viandanti, ma anche chi passa dalla spiaggia, sì, andarsi a sedere sullo sdraio di un cliente. Sì. Il cliente chiaramente si rivolgeva al bagnino, il bagnino doveva intervenire. Sì, perché capita che il venditore ambulante sia un po' stanco, si siede certo, magari no? O mentre sta vendendo sotto l'ombrellone, oppure anche no, semplicemente ma più che altro, se vede una zona un po' libera, abbandonata, ci va. Si piazza lì. Io il problema l'ho risolto in questo modo. Dice, ti metto un ombrellone lì, fai quello che ti pare. A chiunque passi sulla Bastiglia, mezz'ora gratuita. La mezz'ora non è poi neanche tanto fiscale, nel senso che in genere i possono diventare anche 40 minuti, insomma. Mamma, in genere. Meno, Ma una domanda, quando passa il venditore e si mette sotto l'ombrellone del viandante, poi lei gli tira una rete per imprigionarlo? Assolutamente no, io sono sempre stato contro reti e muri, la storia forse ce l'ha insegnato. Ma non beh, se no non avrebbe fatto capito quello che ha fatto, certamente. Certo. Cosa ne pensa invece di per esempio del sindaco di Forte dei Marmi, che ha ribadito anche quest'anno questa ordinanza, ha risposto in un modo diverso rispetto direi al suo, opposto, no? Sì, ho avuto la sensazione che più che la lotta all'abusivismo commerciale si faccia una discriminazione su chi poi frequenta le spiagge, no? Il fatto di impedire a qualcuno di un po' di refrigerio sotto, tra l'altro, pontili che non sono utilizzati da nessuno. Probabilmente hanno problemi di degrado di un certo tipo. Ma lei, è ancora in spiaggia a quest'ora? No, alle 8:15? Sì, non... sì, sono sulla terrazza del ristorante. Immagino la vista mare. Come stanno i posti? La sentiamo malissimo, però immaginiamo che bel panorama che ci abbia davanti. Ma i posti del viandante sono ancora occupati? Ma certo, il Belloni ce n'è uno, ma in genere viene occupato nelle ore più calde. Certo, no, mi chiedevo se qualcuno si godeva il tramonto anche nel posto del viandante. E quanto le costa? Si il tramonto, ma sulla spiaggia ormai non c'è più nessuno. Ormai c'è più nessuno, certo, a quest'ora. Quanto le costa? Quanti sono gli ombrelloni? Due, ha detto? No, ce n'è uno. Ce n'è uno, su uno solo. Ah, chiedo sì, scusa. Ah, però in prima fila, perché giustamente è quando si passa lì sulla... È più vicino al transito di chi passa. Quindi non ha tolto, diciamo, spazio a un altro introito economico. Perché la prima fila è ambita, nelle stabilimenti. Certo che è ambita. Sì, è ambita, tutti però vogliono... noi abbiamo una situazione logistica particolare, perché abbiamo delle scogliere frangiflutto per la protezione della costa, per cui sì, questo ombrello si trova vicino alla scogliera, vicino all'acqua, vicino alla scogliera, proprio sul passo, per cui non dà nessun tipo di problema da un punto di vista di appetibilità del economica posto. E un'altra cosa le vorrei chiedere, diciamo gli avventori, no, come si dice, cioè, i clienti del suo stabilimento balneare, hanno fatto qualche commento, sono soddisfatti o la cosa è passata anche un po' così inosservata? Allora, non è perché quando uno risolve un problema poi non se ne accorge nessuno, no? Invece se ne sono accorti e sono soddisfatti di come stanno andando le cose, perché non hanno più il problema di chiamare il bagnino, quindi anche di tempi, no? Vanno all'ombrello, ci trovano qualcuno, sì, diventa difficile. Così il problema non c'è più, chi transita qui, poi in genere sono le solite persone, hanno capito come funziona. Se viene uno straniero, legge perché è in multilingue, la scritta sull'ombrello, si piazza lì, fa il suo bagno e se ne arriva tranquillamente. E in questo modo ho anche superato quello che era un po' l'accusa che veniva fatta ai balneari. Già, no? Perché lei... il libero transito, il libero accesso. Questa cosa l'ha fatta... l'ho risolto a prescindere, sì, no? Questa cosa lei l'ha fatta, ho letto da qualche parte, perché era stato colpito da un'inchiesta di Milena Gabanelli di Report che esatto, parlava proprio di questo. Sì, sì, sì. Era un'inchiesta fatta sul Lido di Ostia, dove sicuramente ci sono questi problemi di richiesta di ticket per l'ingresso alla spiaggia. Qui sul nostro litorale non è così, ma io proprio per dimostrazione ulteriore ho detto metto questo ombrello a disposizione di tutti, per cui nessuno mi può accusare di non far passare, di non far anche perché così vuol dire che può entrare chiunque, perché basta che dica che vuole andare a vedere anche semplicemente come se è libero il posto. La normativa dice libero transito e libero accesso, e io quello ho fatto. Guardi, quello che ha fatto lei sarebbe quasi normale che lo facessero un po' tutti, insomma. Però ha preso piede questa cosa lì sul litorale pisano, oppure lei è l'unico? No, più di tanto hanno preso piede altre iniziative più legate al sociale, tipo l'ombrellone gratuito per le famiglie meno abbienti. Sì, sì. Ma tutta una serie di situazioni che vanno verso il sociale, e questo non è male. È molto bella questa notizia. Mi chiedo anche sempre se quando l'ambulante si siede lì, se poi c'è un altro ambulante che cerca di vendergli degli occhiali a quel posto. Una volta che si è seduto, si conoscono tutti, credo. Ottimo. Ho messo anche un limite di persone, chiaramente, all'ombrello, due sdrai, due persone alla volta, per cui. Certo, c'è il turnover. Il turnover, tra l'altro, è molto comodo perché uno in quella mezz'ora può vendere o non può vendere l'ambulante. No. Ah, non può vendere? No. Perfetto. La vendita non è concessa. Giusto, se no diventava la sua bancarella. La ringraziamo. Esatto. Grazie, buona serata. Grazie mille, buona serata. A voi, i bagni mille, e Vittoria. E buon tramonto. E buon mare. L'ombrellone del viandante. E noi siamo a Milano, in Monte Rosa. Alessio? Bello. No, sono molto contento di questo agosto. Ma noi siamo felici di essere qua. Cosa ci faresti adesso lì sulla terrazza del bagno Vittoria, guardando il tramonto, a bere, che ne so, una caipirosca? Cosa ci faresti? Mi annoierei sicuramente. Mi mancheresti, ti chiamerei e cercherei di parlare in radio. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, stasera in triplice formazione: Alessio Maurizi, Carlo Gabardini e Diego Parasole. Eccoci qua. Hai visto lo stand dell'America? È detto che è il più bello di tutti, perché non c'è niente. No, non c'è. Ti faccio vedere la foto, vedere anche la stessa. Qualcuno spieghi a Diego Parasole che siamo in radio. Radio, immagini, movimento, no cinema, testimoniare. Poi però, oggi ho visto poca gente. Però esatto, ci puoi dare il radar delle cose da vedere, perché dov'è che c'era coda? Negli stand più belli, che sono come al solito. Giappone, quelli che io non riesco mai a vedere e mi dicono tutti essere molto belli. Giappone, poi c'è l'Italia, che un salto all'Italia. Qatar, ma l'ho detto quello del Qatar, è molto bello. E mi hanno detto anche quello degli Emirati Arabi. Io me li segno tutti, perché io dopo domani vado a Expo. Informazione di servizio. Esatto. La Germania, mi hanno detto 40 minuti di coda oggi, già un po' meno che nel tempo passato. Brasile, che è quello dove c'è il divertimento, però la rete per i ragazzi, eccetera. Valerio da Macerata, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, prego. Allora, io volevo intervenire sul discorso del corpo forestale dello Stato. Sì. Io sono un grande viaggiatore appassionato degli Stati Uniti, quindi conosco tante realtà. Per cui quella dei park ranger americani, che sono quelli, dei film. Quelli dei film, non i ranger. Anche Terence Hill ha fatto un film sul corpo forestale, quindi anche qualcuno parlando dell'Italia potrebbe dire: ah, quelli dei film, quelli di Terence Hill, il corpo forestale. Scusa, ti abbiamo interrotto. No, il discorso qual è? Che negli Stati Uniti sono molto, molto rispettati, molto seguiti, hanno un valore sociale molto importante, perché hanno, al di là del fatto che fanno le stesse cose che fa il nostro corpo forestale dello Stato, cioè di intervenire, di controllare, di verificare che non ci siano illeciti compiuti nelle aree protette, fanno molta educazione, ma tantissima educazione sul territorio, ai cittadini che entrano nei parchi. Ma di parchi parliamo anche di Central Park di New York, non necessariamente. Ma questi ranger sono federali, cioè sono dello Stato americano o sono dei vari stati locali? Sono, penso che abbiano una. Cioè non si tratta di guardie private, lei parla proprio dei rangers come corpo. Sì. Park ranger. Ci sono anche a Central Park? Sì, assolutamente. Anche, guardi, anche questa era una battuta vera. No, l'ha detto lui, ce l'ha spiegato. Mentre da noi non c'è il corpo forestale, i giardini pubblici. Sì. Guardate, sono di ritorno da Roma, sono atterrato oggi. E sono stato dall'America? Dall'America. Sono stato in California. Sono stato qualche giorno fa sull'isola di Alcatraz, la prigione. Sì. Che è stata dichiarata nel 63 o nel 65 quando ha chiuso parco nazionale, e parliamo di un isolotto che si gira a piedi in 20 minuti, però lì ci sono i park ranger che, al di là del controllare la sicurezza, per quella che può essere la sicurezza, fanno formazione, spiegano alle persone la natura che c'è sull'isola, la fauna, la flora, quello che non si può fare, quello che si può fare quando ci sono i periodi. Ma non lo so, è bello quello che lei racconta. Io quelli del corpo forestale in giro a fare cose non li ho mai notati, forse sono stato distratto io. Sa cosa? I ranger poi hanno le jeep, per cui è tutta un'altra immagine. I nostri che cosa avranno? Le bici? Non lo so. Va bene, scusate, devo dire, il nostro ascoltatore non è aggiornato, perché mi è arrivato un velino in questo momento. Pare che i park ranger siano stati appena aboliti da Renzi, peraltro. Ah, pure loro. Renzi, se lo sa, viene ad abolire anche i Rangers in America. E entrano nei carabinieri, questa è la vera notizia. Questa. Il problema dei Ranger è quello a questo punto. Valerio, grazie, buona serata. Andiamo con chi andiamo? Maurizio da Catania, buonasera. Buonasera. Io volevo passare una piccola esperienza. Io una trentina d'anni fa volevo fare il fotografo ambulante. Ho fatto. Cos'è il fotografo ambulante? Una volta esisteva, diciamo, questa figura per cui tu potevi esercitare la fotografia in giro per le strade e poi magari, diciamo, vendere le tue foto. No, ma esiste ancora oggi? Come si fa gli eventi con le Polaroid? Con le Polaroid? No, anche con le macchine normali e poi davi il tuo recapito, diciamo, e potevi fare una piccola attività. C'erano dei fotografi fissi anche nei parchi. Cittadini che facevano le foto e poi, diciamo, le consegnavano dopo qualche giorno. Certo. Insomma, per fare questa attività tu dovevi presentare dei documenti e chiedere il rilascio di una licenza che portavi con te, in modo che chiunque ti fermasse dice: no, io sono autorizzato. Certo. Ora, quello che a me sembra che qualcosa di assolutamente semplice da noi non si fa mai. Se ci sono degli ambulanti, delle persone che stanno qui, basta solamente farli iscrivere a un albo di venditori ambulanti, riconoscerli, a dargli un tesserino, fargli pagare una merce contraffatta, che facciamo? Come facciamo? Questo lo puoi controllare solo nel momento in cui cominci a fare un'organizzazione. Se c'è un'organizzazione, a parte che nelle spiagge ci vorrebbe anche persone, come poco fa parlava l'altro ascoltatore, diceva ci sono, diciamo, queste persone che controllano. È chiaro che se tu cominci non a essere razzista, negativo, positivo, democratico o non democratico, ma si tratta solamente di essere organizzati in modo manageriale, rispettare le persone per quelle che sono. Mi scusi, ma esiste il tesserino? Io credo che esiste un tesserino per tutti gli ambulanti. Il problema è che se un ambulante è un irregolare che non ha i documenti, non può certamente andare a iscriversi al fare il tesserino dell'ambulante abusivo. Certo. Esatto, bellissima. Grazie. Guarda, in maniera molto ampia. Se io dico a una persona, la fermo e gli chiedo: tu sei regolare? Però scusi, dice, Maurizio, non lo sono. Ho capito, ma mi tocca un attimo una curiosità. Lei 30 anni fa faceva il fotografo ambulante, ha fatto una carriera, adesso cosa fa? No, adesso faccio il rappresentante, ma è un'altra storia. Ma ha nostalgia di quel tempo quando faceva fotografo? Ma sicuramente sì, mi sono molto divertito perché andavo in tutti i concerti. Magari allora non tutti avevano le macchine fotografiche, quindi facevo le fotografie ai cantanti, alle persone. E lei era in concorrenza con chi? Con i fotografi? Quelli di... No, non ero in concorrenza perché ero regolare, quindi potevo fare il mio lavoro. Voglio dire, con chi aveva concorrenza è regolare, non è un problema. Cosa? No, scusi. No, vabbè, stavo parlando di concorrenza. Maurizio, era per la curiosità di sapere poi come si è evoluta la sua carriera. Adesso fa rappresentante di cose che non c'entrano nulla con la fotografia. Non c'entrano nulla, però per parecchi anni ho fatto quell'attività, diciamo, sia per divertimento, perché mi permetteva di entrare, diciamo, nei vari spettacoli, ma anche perché mi piaceva la fotografia. Si è divertito un po', e dai. Anche guadagnavo qualcosa, perché poi, diciamo, c'era qualcuno che era interessato per avere le foto di quella bella. No, ma ha colto un punto, cioè questi lavori potrebbero essere ancora oggi sia regolamentati, una opportunità. Ma sono regolamentati questi lavori? Sì. Ma certo, nel senso che quelli che hanno il banchetto dei mercati, dei mercati devono chiedere un permesso. È ovvio, risolto. Poi ci sono quegli abusivi che non possono chiedere un permesso perché sono abusivi. Chiederlo, ma se non possono chiederlo non lo possono fare. Neanche io, se voglio fare una cosa oggi. Ma mi scusi, che gli abusivi non possano farlo. È tautologico. Adesso di che cosa stiamo parlando? Su questa cosa. Chiamano abusivi. Sì, ma se tu non li controlli, ma vengono controllati. Mai, vuol dire mai. No, non vengono controllati. Guarda, da Catania alla Playa, che è una spiaggia immensa, ogni giorno passano, non ti dico, ma almeno una trentina di ambulanti con cose completamente diverse, ma nessuno mai, ne ho visto mai fermare uno in mezzo a Milano, vengono controllati, scappano. Io sono d'accordo, scappano, metterei di solito, anche quindi un patentino per farsi i selfie, che così la gente la smette. Ecco, la chiudiamo così. Andiamo con forse l'ultima telefonata di stasera, Pasquale da Lecce. Sì, sì. Quale, buonasera. Qua. Buonasera. Buonasera. È un vero piacere parlare con voi. Un saluto particolare a Diego Parassore, che io ammiro tantissimo, veramente. La ringrazio molto, è mio cugino, gli ho dato il numero alla trasmissione. Sì, sì, infatti, ciao Diego, se sì, la zia ha detto che è tutto a posto. Allora, io niente, io seguo con interesse la vostra trasmissione da un sacco di tempo, quindi ho seguito con interesse questa sera purtroppo la possibilità che il Corpo Forestale dello Stato possa essere smembrato, diciamo così. No, è più che una possibilità, è così. È più che una possibilità. Io dico semplicemente questo, che da qualche parte purtroppo bisognerà iniziare. A me dispiace veramente tanto, perché si tratta di numerose famiglie che potrebbero perdere. No, il lavoro l'abbiamo detto, non lo perdono. Sì, vabbè, diciamo, va bene, diciamo di sì. Però io non ho mai sentito parlare di altri corpi, tipo per esempio l'esercito italiano, sì, la marina militare, l'aeronautica, dove oltre alle persone che svolgono delle missioni importanti. Addio, è andata via la linea. Posso aggiungere una cosa a questo punto? Perché il decreto, la legge, la riforma della PA prevede anche la diminuzione delle camere di commercio e delle prefetture. Non l'abbiamo detto, ma insomma è lo stesso capitolo, diciamo, di attese di risparmi da accorpamenti e cose varie. Chiudiamo, con chi chiudiamo? Con Valerio da Lucca, vai. Valerio? Sì, buonasera. Sì, buonasera, ci sono. Anche noi ci siamo. Ci siamo tutti. Senta, beh, vi volevo dire semplicemente questo: un plauso all'esercente di Marina di Pisa, perché ha trattato come esseri umani dei suoi pari esseri umani, perché forse ce lo dimentichiamo che anche i Vukumpra, viandanti, sono degli esseri umani come noi. Mm-hmm. E che meritano le attenzioni che e invece del sindaco di Forte dei Marmi, che è più giurisdizione sua, il sindaco di Forte dei Marmi, che io fra le altre cose conosco, lui punta ad avere una elite, per così dire, di persone che sono elitarie da un d'elite punto di vista, certamente elite da un punto di vista patrimoniale. Non andiamo ad indagare su che sostanza di persone sono nel proprio intimo, ecco. Però ma questo come facciamo questo a sapere? Non è che possiamo, una valutazione che non ci compete. No, ma poi che c'entra, scusi, nel proprio intimo che persone sono? Tutti quelli che frequentano la Versilia? No, assolutamente no. Però è evidente che se lui ha preso questa decisione avrà avuto delle segnalazioni ben precise dagli esercenti che le ricevono dai loro clienti. Insomma, a lei è piaciuta la cosa di Pisa, però, che detto la lucchese, tra l'altro, le fa onore, però non ce l'ha su più di tanto col sindaco di Forte dei Marmi. Assolutamente, sono scelte di politica economica, basta, che in quanto tali rispettabili. Va bene, grazie. Grazie. Buona serata, è tutto per questa sera. Io voglio ringraziare tutta la redazione, Leonardo Siligato, Grazia Gala, Isotta Scenna, Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Paolo Corleone in regia. Un grande grazie naturalmente a Diego Parassole. Grazie a voi. Prossimo giro in Expo, poi torni? Prossimo. Assolutamente sì, spero prima o poi di vedere la Germania, eccetera. Eh no, perché ci hai messo curiosità, tutte queste code che hai fatto, non sei riuscito a entrare adesso. Esatto. Ci risentiamo domani sera. Ciao. Ciao Carlo. Ciao. A domani, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona serata.